Ormai è la terza di quest'anno, dopo il giorno dedicato al problema dell'antisemitismo in Germania e in Italia, in cui ha riferito il professor Lin, e dopo la giornata dedicata alla Prussia tra polizia e gummi, in cui ha riferito il professor Schiera. Ecco, quindi non c'è bisogno di preamboli, ormai tutti loro sanno un po' come si svolgono questi lavori, che vorrebbero essere il più possibile informali, ma dare soprattutto spazio al dibattito, al ricambio, allo scambio di idee. Ecco, il professor Ara è specialista ormai ben noto di questi temi, quindi non ha bisogno di presentazione. L'unica cosa che aggiungo è che mi sembra che il tema di oggi sia particolarmente interessante, perché mentre gli altri temi erano temi di grossa levatura storica, ma che investivano, diciamo, l'area più ampia della storia italiana e tedesca, il tema di oggi ci porta invece, direi, un po' alle radici di un nostro essere ancora attuale. Ecco, quindi quello che vogliamo fare oggi è proprio di accostarci a queste vecchie radici nostre, direi nostre di questa regione, in cui io sono un immigrato recente, ma che insomma così sento ormai come mia, per cercare appunto di riprendere il filo di una tradizione che purtroppo in questi ultimi decenni ha subito molte tensioni, molti strappi, ma che ritengo debba essere in ogni caso ancora uno dei peli su cui fondare uno sviluppo anche proprio in senso aperto, in senso di comunione di culture di queste terre. Quindi grazie al professor Ara di essere venuto e cominciamo i lavori. Grazie. Il professor Ara parlerà circa 45 minuti, poi faremo un breve intervallo di 10 minuti e seguirà la discussione. Poi andremo a pranzo, e si riaprirà poi il pomeriggio alle 3. Grazie, sono io che ringrazio il professor Prodi per avermi invitato qui e che ringrazio loro tutti che sono venuti. E questo incontro, come il professor Prodi mi ha assicurato, è un incontro molto informale, quindi la parte principale dovrebbe essere proprio dedicata all'incontro, alla discussione, piuttosto che non all'esposizione. Io cercherò così brevemente, spero, almeno sia la mattina che il pomeriggio, fare la mia esposizione, ma soprattutto invito loro a collaborare al dialogo e alla discussione. Anzitutto vorrei forse chiarire un momento, più precisamente il titolo di questo seminario, della mia esposizione, del nostro dialogo, che sì, in parte il problema universitario nel Tirolo prima del 1914, ma che soprattutto il problema universitario nel Tirolo prima del 14 in relazione alla lotta, al contrasto tra le due nazioni provinciali tirolesi, e quindi soprattutto la questione universitaria italiana nel Tirolo prima del 1914, ma di fatto la questione universitaria italiana in Austria prima del 14, dato che l'aspetto tirolese è solo un aspetto di una questione più vasta che da un certo punto in avanti soprattutto diventa essenzialmente per gli italiani austriaci la questione dell'Università Trieste, e cioè nella maggiore città italiana d'Austria. E vorrei anzitutto, per dare effettivamente il senso dell'importanza, del significato che questa questione ha avuto, partire da un documento ufficiale, un documento molto tardo, del 1 maggio del 1914. Siamo quindi, cioè, alla vigilia, in pratica, dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. La questione dell'università italiana non è stata ancora risolta e non sarà risolta prima dello scoppio della guerra mondiale. Questo documento, che viene dal presidio del Ministero per il Culto e l'Istruzione, è un documento che dimostra l'importanza che la questione aveva per le autorità centrali austriache e soprattutto i differenti risvolti, cioè i diversi settori in cui l'università italiana, il problema dell'università italiana aveva un'importanza, cioè non è assolutamente una questione puramente tecnico-educativa, non è una questione che è limitata esclusivamente a questa sfera tecnico-scolastica, ma è un vero e proprio problema di notevole importanza sotto un profilo politico nazionale, non solo per il rapporto tra Vienna e i suoi sudditi italiani, ma addirittura per il quadro totale della lotta nazionale in Austria. E vorrei rapidamente ripercorrere le tappe essenziali di questo documento, senza annoiare loro con una lettura o con un'esposizione completa. Il problema dell'università italiana, si dice in questo documento, è anzitutto una questione di interesse statale, nel senso che tocca molto da vicino il problema del rapporto tra l'autorità centrale ed i suoi sudditi italiani. Ed è una questione di interesse statale nel senso che dalla sua soluzione o meno dipende essenzialmente lo Staatsgefühl, il sentimento statale dei cittadini italiani, dei cittadini austriaci di lingua italiana. Quindi una mancata soluzione di questo problema rende più ostili al governo austriaco i suoi sudditi di origine di lingua italiana. In secondo luogo, la questione dell'università italiana è ritenuta dall'autorità centrale un postulato di giustizia. Postulato di giustizia nel senso che si tratta di dare agli italiani delle istituzioni culturali di cui in altri tempi in Austria essi hanno già goduto. E questa sarà un po' la storia che cercheremo di vedere rapidamente oggi. Pavia prima del 59, Padova fino al 66, le istituzioni parallele di Innsbruck fino al 1904. E un postulato di giustizia anche in un altro senso, cioè nel senso, e questo è un elemento tipico del dibattito culturale, del dibattito scolastico in Austria, questione di giustizia nel senso che gli italiani, più che non le altre nazioni non tedesche d'Austria, sono considerate una nazione di cultura. Cioè qui c'è il solito problema di austro-tedeschi e italiani considerati nel mondo austriaco come le due Kulturnation per eccellenza, che hanno un livello culturale che non è assolutamente al quale le nazioni slave non si potrebbero assolutamente paragonare, e quindi secondo l'autorità di vertice la richiesta slava per un'università sarebbe infondata, non potendo fare leva su questo alto livello culturale che hanno gli austro-tedeschi e hanno gli italiani. D'altra parte, la questione dell'università italiana ha un peso notevole sulla politica parlamentare austriaca. In pratica, dal 1904 al 1914 è stata costantemente sul tappeto, costantemente all'ordine del giorno, e in certi momenti addirittura indirettamente essa ha condizionato l'equilibrio parlamentare austriaco. Basta pensare a quello che è stato forse il momento più importante sotto un profilo parlamentare della questione italiana, gli anni 1908-1909. Il ministero austriaco di Bienert è sorretto da una ristrettissima ed eterogenea maggioranza, la cosiddetta Arbeitsmajorität, una maggioranza di lavoro, nella quale il gruppo parlamentare italiano, con i suoi circa 19-20 deputati, è un anello essenziale. E quindi non è un caso che proprio Bienert cerchi di risolvere parlamentariamente la questione proprio per un problema di equilibrio politico-parlamentare, di sopravvivenza governativa. La questione dell'università ha poi un rilievo abbastanza notevole anche in politica estera. In quella che uno dei più importanti ambasciatori austriaci a Roma prima del 1914, il conte Lützow, definirà non una Liebesheirat, ma bensì semplicemente una Vernunft e un matrimonio di ragionamento, in questo rapporto triplicista così continuamente teso tra Italia ed Austria, condizione essenziale era anche quella di mettere da parte di risolvere tutti i possibili temi che determinavano, che potevano contribuire alla tensione ulteriore dei rapporti austro-italiani. E la questione dell'università è la questione che così per tutta una serie di elementi è sentita più profondamente sia dagli italiani d'Austria che dagli italiani del Regno, e in conseguenza la sua soluzione poteva contribuire ad un'attenuazione dell'irredentismo e soprattutto poteva contribuire ad un miglioramento di questo matrimonio di ragione tra Italia e Austria all'interno della triplice. E soprattutto, questa è forse l'espressione più importante di questo documento, e poi chiudiamo la sua analisi, la Universitätsfrage, la questione universitaria, era sfruttata dagli avversari dell'Austria, dagli austro-italiani irredentisti, nella mancata soluzione veniva visto il simbolo più patente, più lampante di una politica dura, di una politica contraria agli interessi degli italiani in Austria. Qui vale la pena forse di fare la citazione letterale, perché si tratta di un'espressione molto interessante, molto pregnante: la mancata soluzione della questione dell'università italiana viene visto come il simbolo più evidente dell'oppressione degli italiani in Austria. E quindi era una questione che effettivamente agitava l'opinione pubblica, la cui soluzione era proprio da considerarsi essenziale ai fini sia di problemi di politica interna che di problemi di politica estera. Questo per dire come nel 1914, cioè alla vigilia di quella guerra mondiale che condurrà al crollo dell'Austria, per quanto non risolta, nonostante un lungo dibattito di circa 15 anni, la questione dell'università italiana era ancora un tema, un momento essenziale, sia per quanto in una superficie anche geografica limitata della politica austriaca, sia soprattutto la questione forse essenziale nel quadro dei rapporti tra Vienna e i suoi cittadini di lingua italiana. Adesso vediamo un momento, così dopo aver dato attraverso questo atto ufficiale il senso dell'importanza che la questione ha avuto, di proporre una periodizzazione negli svolgimenti della questione universitaria in Austria. E direi che la questione può anzitutto essere vista in due fasi. Una prima fase che va, e poi vedremo di giustificare questa periodizzazione, dal 1867 al 1904, in cui effettivamente il Tirolo ha una posizione essenziale all'interno della questione, cioè la questione universitaria è sì in larghissima parte ancora una questione tirolese. Dal 1904-1905 invece la prospettiva tirolese della questione passa in secondo piano e la questione diventa più chiaramente un problema che riguarda in generale gli italiani d'Austria ed in modo particolare diventa la questione della Università Italiana Trieste. Non è un caso che nel libro, nonostante tutti i suoi limiti, più importante che sia stato dedicato alla questione prima del 1914, cioè il libro pubblicato nelle edizioni della Voce da un trentino, Ferdinando Pasini, sulla questione universitaria italiana, questo libro abbia il titolo L'Università Italiana a Trieste, cioè Trieste era diventato e diventa dal 4-5 in avanti proprio il simbolo della lotta universitaria italiana. Quindi, mi pareva che volesse parlare di me. No. E adesso vediamo, dopo aver stabilito questa prima periodizzazione generale, vediamo un momento più diffusamente una periodizzazione che sia un po' più sofisticata, che tenga cioè conto di linee di sviluppo diverse. L'anno iniziale della questione dell'università italiana è naturalmente il 1866, cioè l'anno in cui il Veneto e quindi Padova passano al Regno d'Italia e gli austro-italiani non hanno più all'interno dell'Austria una sede universitaria in cui possano compiere i loro studi. E quindi sotto questo profilo è chiaro, e l'autorità governativa se ne rende conto immediatamente, che il passaggio di Padova all'Italia segnava effettivamente una cesura, nel senso che occorreva a quel punto porsi il problema di come garantire agli italiani il diritto di una formazione universitaria nella lingua materna, tanto più che il 1867 è la data di entrata in vigore della nuova Costituzione, in cui il famoso articolo 19 sembrava garantire il diritto di tutte le nazioni austriache ad uno sviluppo del proprio sistema di istruzione in tutti i gradi, quindi dalle scuole elementari sino all'istruzione universitaria. Questa data d'inizio, dal 1866 fino ai tardi anni 90, la questione dell'università italiana sembra procedere su due piani ben distinti. Cioè, da una parte ci sono tutta una serie di richieste di principio di una università italiana che vengono portate avanti da tutti i gruppi, da tutti gli elementi austro-italiani d'Austria. Mi pare che verso il 1870 ci sia la prima richiesta ufficiale da parte del Comune di Trieste di un'università italiana a Trieste, e ci sono molteplici indicazioni in questo senso, anche per esempio da parte di comuni dalmati, soprattutto la città di Zara, e quindi c'è questa richiesta di principio che viene portata avanti, che non si concretizza però di fatto in iniziative concrete. Sembra quasi così un postulato generale di politica nazionale fatto per riguardo all'opinione pubblica, fatto in un certo senso per salvarsi la coscienza, ma senza poi porsi in modo concreto il modo di come queste iniziative potessero tradursi in pratica. E d'altra parte invece c'è quello che è l'aspetto che concretamente più interessa, che ha i maggiori risultati positivi, ed è quello dello sviluppo concreto e graduale di istituzioni parallele universitarie italiane a Innsbruck. Ed è proprio questa evoluzione, la vedremo meglio dopo, che è un problema tipicamente tirolese, nel senso che queste istituzioni si sviluppano nella Landeshauptstadt tirolese, nella capitale tirolese, e quindi sono una questione che investono anzitutto problemi di politica nazionale della città di Innsbruck e poi il problema dei rapporti tra le due nazionalità provinciali. Questa fase di sviluppo iniziale dei corsi paralleli negli anni dal 1866 al 1890 è però piuttosto lenta. E a questo punto quindi possiamo proporre una terza fase in questa periodizzazione, che è proprio la fase in cui i corsi paralleli compiono un notevolissimo salto qualitativo. Lo sviluppo qualitativo delle istituzioni tirolesi si ha negli anni soprattutto tra 1894 e 1899, e questo sviluppo però implica dei nuovi problemi. Cioè, a questo punto effettivamente le istituzioni tirolesi, i corsi paralleli che all'inizio non hanno avuto un preciso carattere italiano, vengono ad assumere un carattere nazionale italiano, ed anche questo lo vedremo meglio dopo. E quindi governo e Parlamento devono pensare ad una soluzione definitiva della questione, perché ormai questi corsi paralleli italiani a Innsbruck sono diventati una mina che minaccia di esplodere e che di fatto, per esempio, nel 1904, ma anche prima in certi momenti, esploderà. E quindi in pratica questa fase gli anni 1894 al 1904 è caratterizzata da questi due elementi: l'ascesa quantitativa e qualitativa delle istituzioni parallele italiane e però anche la fine del tentativo nel 1904, proprio perché queste istituzioni parallele, dilatandosi troppo, hanno determinato tutta una serie di contrasti, soprattutto a carattere nazionale. E quindi il 1904, la data che segna la fine di quella facoltà di Wilton, che muore ancora prima di cominciare, è anche la fine di questo tentativo di sviluppo graduale delle istituzioni italiane in una città tedesca, in un land a composizione mista austro-tedesca e italiana. E quindi dal 1905 al 1914, cioè fino alla fine, la prospettiva tirolese del problema universitario italiano si attenua e scompare quasi completamente. Il governo in questo periodo pensa a varie soluzioni, che anche queste vedremo dopo, che vanno dal riconoscimento degli studi compiuti nel Regno d'Italia ad una facoltà italiana a Vienna. Ci sono differenti ipotesi di soluzione, cioè che vengono proposte da parte dell'autorità governativa. Dall'altra parte, invece, nonostante qualche cedimento isolato, qualche tentennamento, in certi momenti qualche tentazione per una realpolitik, la minoranza italiana è ferma sulla richiesta massimalista Trieste o nulla. E quindi dal 1905 al 14 è l'aspetto triestino e indirettamente anche l'aspetto statale, perché Trieste involveva tutta una serie di problemi, anzitutto quello del rapporto tra italiani e slavi nella città di Trieste e nel litorale adriatico in generale. E quindi dal 5 al 14 c'è questa netta predominanza dell'aspetto triestino e, se vogliamo, anche dell'aspetto gesamtstaatlich nella questione. E adesso non so se mi consentite questo accenno preliminare agli aspetti generali della questione. Vorrei ancora fermarmi un momento sui differenti risvolti, visti questa volta non sotto il profilo del giudizio che ne dà l'autorità statale, della questione universitaria italiana. Questione universitaria italiana, che in parte risulta già da quanto abbiamo detto sinora, che è fino a un certo punto rivendicazione culturale, ma che è soprattutto rivendicazione politico-nazionale. E aspirazione all'eguaglianza nei confronti della nazionalità egemone della parte austriaca della monarchia, cioè della nazionalità austro-tedesca. E come tale non è una rivendicazione esclusivamente italiana, è un aspetto della lotta per l'eguaglianza scolastica e per l'eguaglianza universitaria che conducono nella monarchia austriaca tutte le nazionalità soggette, o il termine nazionalità soggetta forse non è il, anzi senz'altro non è il più idoneo per qualificare la nazionalità italiana, ma comunque la lotta compiuta dalle nazionalità minori, come potrebbe essere quella italiana, e dalle nazionalità soggette nei confronti della nazionalità egemone austro-tedesca per la parità di istituzioni culturali. E questo inserimento della questione universitaria italiana in una lotta generale per l'eguaglianza scolastica e per il diritto anche all'istruzione superiore da parte delle nazioni d'Austria è il primo elemento che ci spiega e che incomincia a chiarirci perché la questione universitaria non troverà mai una soluzione per tutto il periodo di durata della monarchia austriaca. Cioè, il motivo centrale del fallimento di ogni tentativo di risolvere il problema universitario italiano è la costante volontà governativa di tenere il problema italiano separato dagli altri problemi universitari, cioè il tentativo di risolverlo negando invece contemporaneamente non ai cechi che avevano già un'università, ma alle nazioni slave meno sviluppate, soprattutto agli sloveni e ai ruteni, un'università in Austria. E nel momento in cui il governo farà delle proposte per la soluzione del problema universitario italiano, ci saranno le immediate reazioni degli altri gruppi nazionali che richiedono immediatamente il soddisfacimento del loro diritto, e quindi dell'università rutena, dell'università slovena, della seconda università ceca in Moravia, e così via. Cioè, l'aver considerato il problema italiano come un problema isolato è l'elemento e non invece averlo inserito in un quadro generale di impostazione dei problemi universitari è l'elemento che spiega il fallimento di ogni soluzione del problema. E d'altra parte questo è però una conseguenza del modo in cui costantemente i governi dell'ultima Austria hanno impostato la questione nazionale, cioè il Nationalitätenkampf non è mai stato aggredito con una visione globale, si è sempre cercato, seppure progressivamente attenuandola, di mantenere l'egemonia dell'elemento austro-tedesco in Austria e soprattutto si è costantemente cercata negli ultimi anni la tattica dei compromessi isolati con singoli gruppi nazionali. Pensiamo al di fuori della questione universitaria, quello che è stato il tentativo più importante, cioè quello del compromesso ceco-tedesco in Moravia, mediante il quale si era raggiunta una parvenza d'intesa tra i due gruppi nazionali in Moravia. Cioè questa è una tattica costante seguita dalla classe dirigente dell'ultima Austria di rifiuto di una soluzione globale del Nationalitätenkampf, della lotta e della questione nazionale. E questo si riflette anche nella questione universitaria ed è proprio la ragione che spiega il fallimento di tutte queste vari tentativi per ottenere la soluzione della questione universitaria italiana. E vorrei a questo punto, se mi permettete, una citazione diretta, uno scrittore tedesco nazionale che è autore di una, seppure molto tendenziosa, delle migliori storie della, un libro invecchiato e tendenzioso, ma che rimane però una delle migliori storie della questione universitaria nel suo complesso in Austria, Paul Molisch ha messo in rilievo questa interdipendenza che esiste tra le questioni nazionali, ed ancora meglio di Molisch l'ha messo in rilievo un deputato ceco, Karel Kramáš, il leader dei giovani cechi, che nel 1905, all'inizio del dibattito sulla riforma elettorale, Kramáš, che poi verrà addirittura condannato per tradimento, poi graziato nel corso della Prima Guerra Mondiale, che metterà in rilievo questa costante lotta di tutte le nazioni austriache per proprie istituzioni culturali, cioè ha rappresentato, secondo me, nella maniera più efficace il profilo scolastico del conflitto nazionale. Il discorso è dell'ottobre del 1905, all'inizio cioè del dibattito sull'introduzione del suffragio universale in Austria, la proposta di Gauch per l'introduzione del suffragio universale. E se mi consentite, dato che credo per molti è la lingua moderna, è la lingua materna, scusate, gli altri la capiscono, ricorre addirittura alla citazione diretta in tedesco. Sie werden mir auch gestehen, dass wir uns jede Schule, jedes Gymnasium, die Universität, die Technik und jetzt wieder eine Universität erkämpfen müssen, als ob wir ein Unrecht an den Deutschen wollten und als ob wir nicht bloß das gute Recht jeder fortgeschrittenen Nation beanspruchen würden, das Recht auf Bildung un nichts als Bildung. E questo è molto interessante, anche se Kramáš cerca di mascherare sotto un profilo culturale una lotta che invece è essenzialmente, per ragioni di fatto, una lotta politica. E questo quindi per quanto riguarda la questione in generale, cioè questo nesso che esiste tra il problema universitario italiano, il problema universitario in generale e addirittura la lotta nazionale in Austria, in quanto il problema universitario diventa un aspetto della lotta nazionale. D'altra parte, oltre a questo nesso, chiamiamolo generalissimo, dei problemi universitari, del problema universitario italiano coi problemi austriaci, esistono dei nessi tra la questione universitaria italiana e le questioni che invece investono singole nazionalità, cioè il problema universitario diventa un elemento centrale nel quadro dei rapporti tra italiani e austro-tedeschi in Tirolo e diventa soprattutto un problema essenziale, centrale, nel quadro dei rapporti tra italiani e slavi nel litorale adriatico. Il litorale adriatico è una zona mistilingue in cui oltretutto il sistema scolastico era un sistema slavo, era un sistema estremamente arretrato. Gli italiani volevano addirittura l'università, e quindi è chiaro che gli slavi subordinano il loro assenso alla realizzazione dell'università italiana alla creazione di un'università bilingue o la creazione di un'università slovena a Lubiana, oppure comunque al miglioramento delle istituzioni scolastiche di cui essi godevano nel litorale adriatico, anche addirittura le istituzioni elementari o medie. Ci sarà nel 1910, mi sembra, un intervento estremamente importante, interessante, spiritoso in Parlamento di un deputato slavo di Trieste, Ribarsch, il quale dirà che se i signori vogliono avere l'arrosto, ci diano almeno il nostro pane quotidiano. Wenn die Herren Braten haben wollen, geben sie uns unser tägliches Brot. Ed è un qualche cosa di estremamente ben detto, abbastanza pregnante. Cioè, la questione universitaria diventa un aspetto essenziale nel quadro di questi rapporti italo-slavi nel litorale adriatico, e non solo direi sotto il profilo del che abbiamo toccato adesso, cioè la richiesta di altre università o comunque di un'università slava o di istituzioni scolastiche slave, ma c'è anche un'altra questione che viene costantemente portata avanti da parte degli elementi slavi, il timore cioè che un'università italiana nel litorale adriatico potesse diventare un veicolo di assimilazione, cioè che oltretutto trovandoci in una regione bilingue in cui gli sloveni e in parte anche croati più colti erano bilingui, erano perfettamente padroni dell'italiano, frequentando un'università italiana potessero ad un certo punto, cosa che di fatto succede molto spesso senza l'università ma fino verso gli anni 1890, potessero essere portati ad aderire alla nazionalità superiore. E del resto in Austria, perlomeno fino al 1890, queste conversioni dalla nazionalità non storica alla nazionalità storica sono estremamente frequenti, sono in fondo un aspetto di una crescita sociale, culturale delle nazioni soggette che ad un certo punto, entrando in un determinato ceto sociale, vengono a far parte anche della nazione dominante. E quindi c'era anche questo timore che l'intelligenza slava finisse in sostanza per snazionalizzarsi, per diventare italiana. E d'altra parte ci sono le preoccupazioni, sempre rimanendo al litorale adriatico, che un'università avrebbe alterato l'equilibrio nazionale e quindi avrebbe favorito l'elemento italiano e l'irredentismo. Adesso lasciamo da parte il problema adriatico, su cui torneremo casomai più tardi, e vediamo invece come la questione universitaria influisce in maniera generale sul rapporto tra italiani e austro-tedeschi in Tirolo. Anche in Tirolo ci troviamo di fronte ad una realtà provinciale bilingue, per quanto ci sia un elemento differenziatore di notevolissimo peso rispetto al litorale adriatico. Cioè, nel litorale adriatico le due nazionalità vivevano compenetrate l'una con l'altra, senza un preciso confine etnico, anche se in linea di massima si può tracciare una distinzione che però non è geografica tra città, centri cittadini e costa che è italiana e parte interna che è prevalentemente slovena o croata nell'Istria inferiore. Comunque in linea di massima le due nazionalità vivevano profondamente compenetrate l'una con l'altra, mentre il Tirolo è l'unico land mistilingue della monarchia austriaca dove esisteva una netta linea divisoria tra un gruppo etnico e l'altro, cioè tra Tirolo settentrionale, meridionale tedesco e Trentino esisteva una linea divisoria precisa, anche se forse poi c'era qualche questione marginale su cui si poteva trattare, quindi soprattutto per esempio la posizione dei ladini di Fassa e di Fiemme, ma insomma in linea di massima il problema era abbastanza chiaro. Però ci si trova di fronte lo stesso ad una serie di timori tedeschi, se non di un'alterazione a proprio danno del confine e dell'equilibrio linguistico e nazionale, se non altro ad un timore tedesco di una generica crescita italiana. Crescita italiana che poteva realizzarsi anzitutto attraverso l'impiego di burocrati italiani, laureati in queste università italiane, che difficilmente avrebbero trovato posto esclusivamente nella piccola parte italiana della provincia e quindi sarebbero andati verso nord, nelle terre tedesche. Quindi c'è il timore di un flusso di burocrati italiani che avrebbe potuto un po' snaturare le istituzioni locali. C'è il timore costantemente presentato per il la salvaguardia del carattere tedesco, se non di tutto il Tirolo tedesco, della città di Innsbruck e in modo particolare dell'università di Innsbruck. C'è il timore di riprodurre artificialmente, lo vedremo casomai meglio dopo, a Innsbruck una situazione praghese. Praga nel corso degli anni Ottanta, prima cioè dei tardi anni 70 e anni 80, mi pare che la creazione dell'Università Ceca di Praga sia del 1882, se non mi sbaglio, era stata caratterizzata da un costante conflitto nazionale tra i due gruppi che convivevano nello stesso istituto universitario tedesco. Ed ora, da parte dell'elemento tedesco di Innsbruck, si dice che una facoltà italiana a Innsbruck avrebbe riprodotto la situazione di Praga, ma per di più artificialmente, nel senso che se a Praga il contrasto esisteva tra due gruppi cittadini, connaturati, inseriti nella natura della città, a Innsbruck gli italiani si sarebbero importati, cioè in un certo senso il governo stesso sarebbe stato colpevole di creare questa situazione di crisi. E poi ci sono anche delle altre preoccupazioni, e cioè qui il problema universitario dimostra di essere strettamente collegato con questioni più generali di politica nazionale in Tirolo, cioè la preoccupazione che la concessione dell'università agli italiani, in un primo tempo a Innsbruck, ma in un secondo tempo questa facoltà sarebbe inevitabilmente stata trasportata da Innsbruck in una città italiana, se nel caso in cui la sede scelta fosse stata una città del Tirolo italiano, del Trentino, si sarebbe messa in pericolo la unità provinciale del Tirolo, il famoso tema della Landeseinheit, della unità provinciale del Tirolo, a cui in sostanza tutti i partiti politici tedeschi ed anche l'autorità governativa rimangono sempre legati. Cioè si temeva che, bisognerebbe fare una parentesi, comunque non è qui il caso di farla, ed è un problema che tutti loro conoscono, della lotta condotta dai trentini per l'autonomia. Si temeva che la istituzione di una facoltà italiana preludesse alla rottura dell'unità provinciale del Tirolo e segnasse quindi la realizzazione di questo sogno italiano dell'autonomia. E è abbastanza interessante sottolineare come questo tipo di preoccupazioni, cioè il timore di spezzare l'unità provinciale tirolese, siano fatte valere da due correnti ideologicamente molto molto diverse tra di loro. Cioè da una parte ci sono le correnti vecchio austriache che hanno soprattutto che prendono in considerazione soprattutto una prospettiva gesamtstaatlich, rappresentate nell'ambiente tirolese soprattutto dall'organo dei vecchi conservatori clericali tirolesi, le Neue Tiroler Stimmen, che vedono una unità provinciale intesa proprio in senso vecchio austriaco, soprannazionale, cioè nel rifiuto della prevalenza dell'uno o l'altro dei due gruppi etnici, cioè sono contro anche un'egemonia tedesca in Tirolo, e che ritengono invece che ci debba essere proprio in senso austriaco soprannazionale un equilibrio tra i due gruppi etnici e che nel nome di questo vecchio ideale austriaco Gesamtstaatlich sono contro la separazione del Land. Quindi si tratta in questo caso di un gruppo austro-tedesco prevalentemente austriaco, nazionalmente potremmo dire quasi neutrale, con una prospettiva che non è assolutamente offensiva nei confronti degli italiani. Dall'altra parte ci sono invece i gruppi tedesco-nazionali in cui il tema dell'unità del Land Tirolo ha un preciso significato nazionale e un significato addirittura aggressivo, cioè non è la semplice salvaguardia dell'equilibrio etnico-linguistico, ma l'unità provinciale vista addirittura in una proiezione offensiva nei confronti dell'elemento italiano. E quindi con delle motivazioni diverse, tutti e due questi gruppi tedeschi sono contro la rottura dell'unità provinciale e quindi vedono in modo diverso il problema universitario italiano. I clericali, i vecchi conservatori vogliono l'università italiana Innsbruck, simbolo dell'unità del Land, capitale che almeno culturalmente può essere bilingue, di un Land multinazionale, di un Land bilingue. Invece i giovani, i tedesco-nazionali, non vogliono assolutamente l'università italiana in questa proiezione offensiva di cui abbiamo parlato prima. E poi ci sono anche delle preoccupazioni di altro tipo, a carattere soprattutto militare, che influenzano e che toccano la questione universitaria in Tirolo, cioè da parte dell'autorità militare viene considerata pericolosa una facoltà italiana nella parte italiana del Tirolo, in Trentino, proprio perché troppo vicino al confine meridionale della monarchia, e quindi esisteva la necessità di evitare che l'elemento italiano e necessariamente, indirettamente, l'irredentismo prendesse troppo piede in questa provincia posta al confine meridionale della monarchia. E le stesse perplessità di carattere politico nazionale e militare esistono anche per il litorale adriatico. E adesso poi arriviamo un po' all'esposizione sommaria della storia della questione. Vorrei chiarire un altro punto, cioè la richiesta italiana riguarda sempre, costantemente, in certi momenti esclusivamente, in altri in prevalenza, la facoltà di legge. Cioè forse si può vedere un momento le ragioni per cui la facoltà giuridica è al centro delle aspirazioni italiane. È la facoltà più richiesta perché anzitutto era di fatto la facoltà più frequentata dai giovani austro-italiani. E poi ci sono però anche delle ragioni, oltre a queste ragioni numeriche, ci sono delle ragioni di fondo, cioè la facoltà di legge è la facoltà che serve per la preparazione del ceto burocratico e quindi è ritenuta in questo senso nazionalmente la più importante, direi addirittura perché è la facoltà che serve, per usare l'espressione di Renner, per il Kampf der österreichischen Nationen um den Staat, cioè della lotta delle nazioni austriache per lo Stato. Nel caso degli italiani, che aspirazioni ad egemonizzare lo Stato non ne avevano e non potevano averne, è perlomeno la facoltà che serve per formare quel gruppo, quel ceto burocratico che serviva agli italiani per conservare, nel caso del litorale adriatico, o per accrescere la propria sfera di partecipazione, accrescere, caso del Tirolo, la propria sfera di partecipazione al potere locale. E poi c'è, direi, un altro problema che va esaminato e che ha, seppure marginale, una certa importanza, e cioè per quanto riguarda gli studi giuridici era molto più difficile il riconoscimento degli studi compiuti al di fuori dell'Austria, cioè degli studi compiuti nel Regno d'Italia. Per gli studi storico-filosofici e filologici esistevano più possibilità di riconoscimento di studi fatti in Italia. Per le facoltà tecniche i problemi erano diversi, anche perché si trattava di facoltà che erano soprattutto in quel momento ritenute nazionalmente più neutre. Invece per la facoltà di legge il riconoscimento era molto difficile per due ragioni. La prima, che l'autorità governativa era molto più rigida, proprio perché cercava possibilmente di evitare di avere dei burocrati austriaci con una formazione universitaria italiana. E la seconda è invece una questione che è proprio nelle cose. È ovvio che lo studio in una facoltà giuridica compiuto nel Regno d'Italia con una legislazione del tutto diversa, o comunque in larga parte diversa, era uno studio che preparava poco effettivamente l'austro-italiano per un'eventuale vita professionale o di impiego in Austria. Ed in conseguenza, anche per questo, era più importante per gli italiani avere un centro formativo di studi giuridici in Austria piuttosto che non in altri settori. Scusa, io vorrei chiedere innanzitutto, per fare i calcoli, più o meno a che punto sono, quanto tempo ho già esaurito? No, adesso così sono stati 45 minuti, credo, se le vuole interrompere per ricordarsi un po'. No, per me no, non so. Andiamo avanti. Andiamo magari avanti. Sia troppo presto per un interruzione. 10 minuti, un quarto d'ora almeno. Bene, allora direi, se mi consentite, insomma, andiamo un po' rapidamente. Cioè, avrei voluto accennare ad altre cose, che nel 1866 il problema della sede a Trieste viene posto effettivamente da parte dell'autorità austriaca, e c'è, con un rapporto dell'allora Stadthalter, luogotenente a Trieste, Kellersberg, una dura posizione nei confronti dell'eventualità di una sede triestina per la facoltà italiana, con considerazioni di vario tipo che tutto sommato si rifanno a quelle considerazioni generali che abbiamo fatto prima, cioè sono considerazioni di equilibrio politico nazionale, sono delle considerazioni a carattere militare, la volontà di non ripetere quello che Kellersberg riteneva era stato l'errore di consentire la formazione di giovani austro-italiani dall'Istria e anche dal litorale dalmata a Padova, perché Padova era stata la scuola della rivoluzione, la scuola dove si era formata la generazione istriana della Dieta del Nessuno, la generazione che aveva condotto la lotta liberale nazionale nel corso degli anni 60. E quindi ci sono tutte queste considerazioni generali anche intorno al rapporto italo-slavo, e anche il timore che una facoltà italiana a Trieste finisse con l'eliminare completamente quel poco di influenza culturale tedesca che, nonostante tutto, a Trieste c'era. E c'è anche un'altra considerazione che può essere abbastanza interessante, perché è un tema che ricorre frequentemente nella storia dell'università italiana, cioè si dice che Trieste non è una città adatta ad una sede universitaria perché è una città di traffici, una città di commerci, una città che sta solo sotto il segno degli interessi materiali, im Zeichen der materiellen Interessen, dice esplicitamente Kellersberg, e tutte queste erano delle cose da evitare. E direi che comunque, ripeto, nonostante petizioni che periodicamente tornano da parte del Comune di Trieste per un'università italiana a Trieste, fino ai tardi anni 90, fin verso il 1899, il problema triestino resta nello sfondo e emergerà completamente forse solo nel 1902, quando Attilio Hortis farà il suo famoso discorso alla Camera dei Deputati per l'Università Trieste, e quando, pochi mesi dopo, un deputato invece della Camera dei Signori, della Camera Alta, che era anche un grande filologo, Adolfo Mussafia, e che oltretutto non era assolutamente un nazionalista, come per un certo tempo l'hanno fatto passare, ha fatto un famoso discorso alla Camera Alta, anche egli a favore dell'Università Trieste. E quindi rimaniamo proprio a questa fase tirolese, e Cerchiamo di dire in questa prima parte almeno qualche cosa su queste istituzioni provinciali, su questi corsi paralleli esistenti a Innsbruck per gli italiani. Sono dei corsi che, la cui istituzione viene decisa nel 1863, la proposta è del 1863, la decisione della dieta è di poco successiva, vengono attivati a partire dall'anno 1865-1866. L'insistenza sulla data può avere una certa importanza perché ci prova una cosa, cioè che i corsi sono istituiti prima che Padova passasse al Regno d'Italia. Non vogliono quindi assolutamente essere una istituzione nazionale italiana, ma semplicemente uno strumento di comodità per un gruppo ben determinato di giovani italiani, cioè i trentini, che vanno a studiare nella capitale del Land, che molto spesso all'inizio non sanno il tedesco e che quindi hanno bisogno, o lo sanno poco, e che quindi hanno bisogno di queste istituzioni parallele. Quindi sono dei corsi paralleli tenuti in italiano per studenti italiani, che potevano essere tenuti, e questa di fatto sarà l'ipotesi, sarà la soluzione più rara, da docenti di ruolo nominati espressamente per i corsi italiani, ed in questo caso non erano semplicemente corsi paralleli, ma erano vere e proprie cattedre parallele. Potevano essere tenute dai docenti di ruolo tedeschi che conoscessero l'italiano e che ripetevano il corso per gli italiani, oppure sarà il caso normale e sarà anche la ragione per cui la consistenza didattico-scientifica dei corsi di Innsbruck fino ai tardi anni 1890 rimarrà sempre piuttosto bassa, potevano essere tenute da supplenti che in genere erano non erano degli studiosi, ma erano dei pratici, cioè erano funzionari, magistrati o avvocati di lingua italiana dell'amministrazione austriaca. D'altra parte era abbastanza facile trovarli a Innsbruck, città burocratica e capitale provinciale, che molto spesso non avevano però una sufficiente capacità scientifica. E quindi dall'adozione dell'una o l'altra delle soluzioni concrete, delle ipotesi concrete, dipendeva anche molto il prestigio e la validità scientifica dei corsi italiani. Comunque l'aspetto importante quindi è che all'origine questi corsi non hanno fini nazionali, ma hanno dei fini esclusivamente pratici. E questo è confermato da un'altra disposizione, cioè che i corsi italiani all'inizio sono previsti solo per il primo biennio, quindi per quel periodo di tempo che presumibilmente gli italiani avrebbero impiegato per impratichirsi del tedesco. Successivamente, nel terzo e nel quarto anno, potevano tranquillamente seguire i corsi insieme con i loro colleghi tedeschi. Quindi sono dei corsi che hanno proprio questa funzione pratica, transitoria, di facilitare l'assimilazione, l'inserimento, forse meglio, degli studenti italiani nell'università tedesca, e devono contemporaneamente assicurare il Nachwuchs, la giovane generazione, il ricambio dei burocrati trentini. E questo all'origine è molto molto chiaro, e addirittura mi pare nel progetto legislativo, nel voto che nella seduta del 28 marzo del 1863 la dieta tirolese fa il voto che le difficili materie del primo e del secondo anno fossero insegnate non soltanto in tedesco ma anche in italiano. Quindi chiaro questo doppio concetto della difficoltà della materia e quindi della necessità di valersi di questo strumento linguistico. E ancora vorrei fare un'altra citazione, anche qui da un rapporto dello molto successiva, di un rapporto dello Statthalter Schwarzenau, il quale dice come sarebbe errato credere che al suo sorgere l'insegnamento italiano sia stato un insegnamento nazionale. La creazione delle cattedre aveva lo scopo unico ed esplicito di alleggerire gli studi agli italiani nei primi anni mediante lezioni fatte nella loro lingua materna. E quindi direi questo all'origine è completamente chiaro. D'altra parte però ad un certo punto c'è una volontà di anzitutto di dare una struttura meno esile, meno fragile ai corsi italiani ed in secondo luogo si inserisce questo elemento che è mutato, cioè il fatto che ormai a quel punto i corsi paralleli con il 68 costituiscono chiaramente l'unica possibilità che gli studenti italiani hanno di compiere gli studi in Austria nella loro lingua materna. E comunque l'avvio dei corsi è molto faticoso. Nel 1866 viene nominato il primo, e per un certo tempo rimarrà unico, professore titolare nell'Università di Innsbruck, che è stata forse anche, e vale la pena di spendere due parole, anzi senza forse la persona di maggiore prestigio scientifico italiana che abbia mai insegnato a Innsbruck, e cioè Francesco Schupfer, lo storico del diritto, che credo sia considerato ancora oggi il più grande storico del diritto italiano. Schupfer, figlio di impiegati, di un impiegato governativo austro-tedesco, nato a Chioggia, era un esempio di questi italiani completamente bilingui, italiano però ormai sia per convincimenti culturali e germanico-italiano per formazione culturale, tanto che nel corso della Prima Guerra Mondiale sarà accusato violentemente di germanesimo scientifico, lui che invece in altri momenti era stato accusato di nazionalismo, è qualche cosa che molto spesso succede. E Schupfer regge però la cattedra per pochissimo tempo, in quanto si dimette con il passaggio dalla Venezia del Veneto all'Italia, e si dimette con una lettera anche molto nobile, molto significativa, che avrei voluto leggere, che casomai vedremo questo pomeriggio, nella quale dice che nel momento in cui il Veneto, sua patria, passava al Regno d'Italia, egli non si sentiva più di continuare ad insegnare in un'istituzione culturale che era per lui ormai completamente straniera. E direi che queste premature dimissioni di Schupfer sono un po' il simbolo, l'emblema della vita dei corsi in questi primi decenni di vita, cioè non riescono assolutamente a decollare, non riescono ad assumere una propria precisa consistenza didattica o scientifica. Questo nonostante che nel 1869 il Ministero abbia esteso i corsi paralleli italiani anche ad alcune delle materie del secondo biennio e precisamente ad alcune delle materie della cosiddetta Judizielle Staatsprüfung. E precisamente si stabiliscono dei corsi paralleli per italiani per le discipline diritto civile austriaco, diritto penale, diritto processuale penale. Forse il fatto già che tutte queste discipline vengano insegnate dalla stessa persona è un segno che il livello di dignità scientifica del corso non potesse essere poi molto alto. E quindi in sostanza fino al 1894 questi corsi italiani rimangono un'istituzione che non è molto né carne né pesce, la frequenza è piuttosto bassa e limitata oltretutto ai soli trentini, il livello scientifico è scarso proprio perché ci sono pochissimi professori ordinari e due in tutto ma mai contemporaneamente, quindi mai più di uno nei migliori momenti. Non ci sono delle borse di studio che assicurassero l'addestramento scientifico dei giovani italiani e quindi dei laureati italiani, quindi non c'è la possibilità di formazione di una nuova classe scientifica. di una nuova classe accademica. E soprattutto c'è, ed anche questo è un elemento interessante perché anticipa quello che succederà verso il 1904, scusate, già nei primi anni del Novecento, una costante ostilità dei professori tedeschi allo sviluppo dei corsi italiani. Cioè non c'è un'opposizione di principio dei professori tedeschi alla creazione di una facoltà italiana in Austria, ma c'è invece un'opposizione di principio a che questa facoltà italiana fosse a Innsbruck. Cioè, in un certo senso, già all'origine, ed anche giustamente, i professori tedeschi prevedono la praghesizzazione della situazione di Innsbruck e quindi della istituzione di Innsbruck. E quindi ci troviamo di fronte a due indicazioni diverse, cioè autorità ministeriale e autorità provinciale, che nel complesso vedono con favore lo sviluppo dell'istituzione dell'istruzione universitaria italiana a Innsbruck, perché Innsbruck è capitale di un Kronland bilingue, perché la facoltà italiana sarebbe stata meno pericolosa in un ambiente tedesco piuttosto che in un ambiente italiano, e perché ritiene più sicuro in una prospettiva statale non avere una facoltà italiana troppo vicino al confine, e così via. E soprattutto perché e d'altra parte invece c'è questa posizione dei professori tedeschi che temono la minaccia ad una città tedesca e ad un'università tedesca e presagiscono quasi i futuri scontri, conflitti che avranno luogo a Innsbruck. E quindi i corsi così vivacchiano fino al momento, nel corso degli anni 90, in cui effettivamente è da parte italiana che si incomincia a scoprire le possibilità positive che i corsi paralleli offrono. Cioè, fino a questo momento anche gli stessi italiani sono rimasti del tutto neutrali, assenti nei confronti di queste istituzioni. Ed è a quel punto che invece soprattutto un deputato trentino, Luigi Campi, scopre che il potenziamento dei corsi paralleli era un modo concreto per anzitutto sviluppare le istituzioni italiane e poi un giorno, da posizioni di forza, poter premere per il trasferimento di questi corsi italiani in una città italiana dove sarebbe stato possibile creare una facoltà di legge ed eventualmente un giorno anche una università concreta, una università completa. E d'altra parte invece il governo fa il ragionamento opposto a questo punto, cioè pensa che potenziare ulteriormente questi corsi di Innsbruck sarebbe stato l'unico modo per evitare il soddisfacimento di richieste massimaliste italiane. E quindi, con prospettive diverse, autorità ministeriale e opinione pubblica, professori, studenti italiani sono d'accordo su uno sviluppo temporaneo delle strutture universitarie italiane a Innsbruck, con questo profondo equivoco che poi si vedrà negli anni dal 1900 al 1904. Cioè, gli uni vogliono in questo modo bloccare, tacitare completamente future richieste italiane, gli altri vogliono invece, attraverso queste istituzioni, farsi proprio uno strumento di pressione e di agitazione per avere il soddisfacimento delle proprie richieste. E così, molto rapidamente, diciamo ancora che tra 1894 e 1899, proprio in coincidenza, in seguito a queste due differenti pressioni, la facoltà, i corsi, le cattedre parallele di Innsbruck incominciano ad assumere un loro volto più preciso e più completo, all'inizio solo per materie del primo biennio, cioè della cosiddetta Rechtshistorische Staatsprüfung, successivamente anche per alcune materie della Judizielle Staatsprüfung, e cominciano ad arrivare i primi professori ordinari italiani. Il primo nominato a questo punto è addirittura un italiano del Regno, cioè un italiano non austriaco, Giovanni Pacchioni, che diventa ordinario di diritto romano, che poi avrà una carriera di un certo peso in Italia, a Torino prima e a Milano poi, quando è possibile, e le scelte di professori non italiani sono motivate con il fatto che, nel caso in cui non era possibile trovare all'interno dell'Austria né un austro-italiano né un austro-tedesco che parlasse correttamente italiano con una sufficiente preparazione scientifica, si poteva ricorrere anche ad elementi esterni purché dessero determinate garanzie, garanzie che erano di carattere politico e in determinati casi anche di carattere religioso. Non so, per esempio, nel fascicolo di nomina di uno di questi professori che verrà a insegnare diritto canonico a Innsbruck per gli italiani, Andrea Galante, c'è addirittura tanto di dichiarazione del suo vescovo, il vescovo di Casale, che dichiarava che andava regolarmente a messa, che soddisfaceva il precetto pasquale, e c'è una carta d'appoggio della nunziatura apostolica, della nunziatura a Vienna, che si rendeva anch'essa garante della buona condotta politica e morale di Galante. Nel caso di Pacchioni si insiste molto sulla sua moderazione nazionale, e quindi direi questo è uno dei tipi di soluzione adottati, cioè il ricorso a italiani del regno che dessero certe garanzie. In altri casi si ricorre invece, quando esisteva l'individuo adatto, ad elementi austro-italiani, ed è il caso di colui che diventa prima straordinario, poi ordinario della cattedra di storia di diritto, Tullio Sartori Montecroce, una figura che ha avuto un peso e una famiglia che ha avuto un peso sia culturale che anche politico nella storia del Trentino. In certi casi si ricorre invece, ed è il caso del predecessore di Galante, von Hörmann, che è il primo ad assumere la cattedra di diritto canonico, ad un universitario austro-tedesco che fosse però perfettamente padrone dell'italiano. E quindi incominciano i corsi ad avere questa consistenza precisa, e soprattutto si crea anche un nuovo strumento, cioè vengono fatte delle borse di studio per l'addestramento scientifico di laureati italiani che dovevano servire alla preparazione per la libera docenza e quindi alla loro formazione scientifica, e anche a dare loro la maturità necessaria per aspirare poi a loro volta alle cattedre. Cioè si crea un vero e proprio piano di ricambio organico generazionale per coprire queste cattedre italiane, e difatti ci saranno due liberi docenti prima dei tragici o comunque dei fatti del 1904. Ci saranno due italiani che attraverso queste borse di studio arriveranno alla libera docenza, Menestrina e successivamente Lorenzoni. Comunque sono gli anni nei quali la facoltà incomincia ad assumere un suo volto preciso. D'altra parte però non è una facoltà autonoma, ma i corsi paralleli. Nello stesso tempo però ci sono tutti questi nodi che vengono al pettine, e qui poi vorrei per stamattina finire, cioè anzitutto siamo arrivati ad una fase in cui la tensione nazionale in Austria, dal governo Badeni, dai decreti Badeni in avanti, è diventata sempre più esplosiva, e quindi il profilo nazionale del problema universitario italiano e dei problemi universitari in generale si fa sempre più chiaro, più massiccio, più visibile. E d'altra parte, e questo potenziamento delle istituzioni italiane a Innsbruck ha reso anche sempre più difficile la loro permanenza in città. Cioè incomincia effettivamente, vedremo, ci saranno dapprima mozioni ripetute da parte del Collegio dei Professori e del Senato Accademico, poi la questione si allarga, non è più solo una questione accademica, ma una questione che investe strati più ampi, prima esclusivamente studenteschi e poi cittadini in genere. Cioè questa università, questi corsi italiani a Innsbruck sono diventati un corpo estraneo nella città tedesca di cui si teme lo sviluppo e che si cerca di rigettare, di espellere, di allontanare, e quindi proprio il potenziamento dei corsi italiani ha reso a questo punto pericolosa, difficile la loro permanenza in città. Era forse lo scopo che gli italiani cercavano di raggiungere, cioè proprio quello di arrivare al punto di imporre il trasferimento, ma come vedremo le cose non erano molto facili, quindi dal 99 al 4 si assiste ad una crescente tensione nella città che esploderà poi nel 1904 e che non darà in sostanza quei risultati positivi, seppure sotto la forma della pressione, che gli italiani auspicavano. Ed io mi scuso della lunghezza, direi che per adesso mi fermo qui, se possiamo incominciare una discussione, poi eventualmente il pomeriggio si può un po' continuare questa rapida storia della questione. No, io vorrei fare soltanto una preghiera. Questo documento che lei ha letto all'inizio, no, sì, del suo discorso, dato che sono un vecchio ex cittadino austro-ungarico, io sarei molto riconoscente se potrei copiare. Questo documento, che subito lunedì, oggi pomeriggio gliene diamo una fotocopia. L'unica cosa ci sono, ma non credo che la disturba, ci sono delle mie... No, no, ma quelle non danno noia, ecco, però io chiedevo invece, interessantissimo questo documento, perché vede, si vede da questo documento. Sì. Ecco, io chiedevo se potevamo fare invece una lettura proprio scorsa, perché lei l'ha sintetizzato molto bene, sì, ma era talmente interessante, una lettura più distesa. Magari non so, sentiamo prima... A me attirerebbe. Sì. Sì, non so, sentiamo se c'è qualcun altro. Questo è il passaggio a livello. Sì, se sono tutti d'accordo, ma se no magari se si potesse fare prima un panorama degli delle domande che ci saranno. Allora leggo. Vabbè, ditemi voi, leggo addirittura o traduco come... È scritto in italiano? È scritto in tedesco, no. Ma in tedesco è scritto... Facciamo una lettura in tedesco con un riassunto italiano. Va bene. Sì. Credo sia la cosa migliore. Ecco. Allora facciamo così. Non so, poi forse c'è qualcuno che il documento già lo conosce, non vorrei... Va bene. Allora, di Frage... Ecco, forse si può dire solamente una piccola cosa. No, no, volevo dire una cosa. Sì. Che questo documento è in una fase in cui si pensa di risolvere la questione della facoltà italiana nel più strano e più abnorme, ma pare anche applicato anche oggi, dei metodi, e cioè di dare semplicemente dei corsi agli studenti italiani che potevano frequentare questi corsi esclusivamente per loro a Vienna, e sarebbero stati dei corsi di livello universitario, senza avere però una struttura formale precisa, e quindi gli studenti dovevano iscriversi ad un'università austriaca, fosse Innsbruck, fosse Graz, fosse Vienna, e potevano andare a fare i loro esami nella loro sede universitaria, e però avevano tutta una formazione italiana che veniva garantita loro da questi corsi che in un certo senso potevano quasi essere considerati dei corsi privati, benché fossero attivati con un decreto. E non so quello che succede, credo oggi, per esempio, non so, c'era una facoltà di medicina di Viterbo dove gli studenti seguivano lezioni a Viterbo, erano iscritti a Roma, andavano a fare i loro esami a Roma. Scusi, una domanda, mi pare, era un decreto. Questo però non entra mai in vigore, questo è il materiale che viene raccolto in vista dell'eventuale... È soltanto una proposta. Per un decreto, sì. Perché normalmente i decreti sono tutti anche sì, no, no, ma questo è il materiale, il documento interno. Questo è il documento interno, il materiale. Ecco. Comunque questo decreto, questo materiale era preceduto da un capitolo, che è quello che allora adesso leggo, che voleva proprio indicare l'importanza della facoltà. E difatti questo capitolo introduttivo si chiama Bedeutung der Fakultätsfrage. Ecco, allora incominciamo. Die Frage der Errichtung einer Rechtsfakultät mit italienischer Vortragssprache berührt grundsätzlich das Staatsinteresse, den der Umstand, dass einem Volksstamme bestimmte, seiner kulturellen Entwicklung entsprechende und ihm anderwärts gewährte Studieneinrichtungen im Inlande versagt bleiben, muss auf das Staatsgefühl seiner Angehörigen eine nachteilige Wirkung ausüben. E questo è quello che avevamo proprio detto all'inizio, cioè che il fatto che ad una popolo, ad una nazione che con un tale sviluppo culturale rimane vietato lo sviluppo di istituzioni di studio nella propria lingua materna all'interno in Austria, non può non avere conseguenze sul sentimento di conseguenze negative sul sentimento di questi sudditi, di questi cittadini nei confronti dello Stato. Sie bildet ein Postulat der Gerechtigkeit, da die Italiener in dieser Beziehung nicht eine neue Errungenschaft, sondern die Wiederherstellung eines Zustandes anstreben, in dem sie sich bereits befunden und den sie nicht eigentlich durch ihr Verschulden verloren haben. Cioè siamo ad un punto in cui i corsi paralleli di Innsbruck, distrutti nel 4, non esistono più. E quindi il postulato italiano è un postulato di giustizia, in quanto gli italiani non è che chiedano una cosa nuova, ma chiedono la reintroduzione di qualche cosa che essi hanno già avuto in precedenza e che hanno perso non per colpa loro. L'accenno forse alla distruzione anche materiale dell'edificio della facoltà italiana nel 1904. Sie berührt die Autorität der Regierung, insofern diese letztere eine Forderung für die sie selbst jederzeit eingetreten ist und deren Berechtigung in den solennesten Kundgebungen der Staatsgewalt anerkannt wurde, tatsächlich nicht durchzusetzen vermag. La soluzione della questione investe anche l'autorità del governo, in quanto il governo si è più volte fatto parte dirigente per la soddisfazione di questo postulato italiano e ha riconosciuto solennemente la fondatezza di questo postulato italiano. E però in questo lungo spazio di 10 anni non è mai riuscito effettivamente a darne una realizzazione concreta. Über dies bildet diese Frage ein wesentliches Element der praktischen inneren und äußeren Politik. La questione poi è un elemento essenziale della politica interna ed estera. Innerpolitisch betrachtet ist sie ein Gegenstand, der seit ungefähr 10 Jahren nicht von der parlamentarischen Tagesordnung verschwindet und von Zeit zu Zeit mit einer Aktualität, die Vorkämpfer des Fakultätsprojektes mit großer Geschichtlichkeit im gegebenen Zeitpunkt zu steigern und in den Vordergrund zu rücken wissen, in die Fragen der allgemeinen Parlamentsgestion auf höchst gefährliche Weise hineinspielt. La questione in politica interna sta ormai da 10 anni all'ordine del giorno dei lavori parlamentari, e in certi momenti viene in primo piano, in certi momenti passa invece in secondo piano, quasi con una regia molto accurata, ed è una questione che viene a disturbare, a toccare in maniera pericolosa la gestione generale del Parlamento. Jedes Mal, wenn dieser Punkt der Tagesordnung unmittelbar an die Reihe kommt, steht die Mehrheit des Abgeordnetenhauses vor dem Dilemma, entweder sich gegenüber dem wiederholt als berechtigt anerkannten Anspruch der Italiener insolvent zu erklären und dadurch einen scharfen Konflikt mit ihnen heraufzubeschwören, oder aber den Kampf nach der anderen Seite hin mit den Gegnern der Vorlage ausfechten zu müssen. Ein Dilemma, das gewöhnlich den Anfang einer parlamentarischen Krise und das Ende eines Tagungsabschnittes bedeutet. E ogni volta che la questione viene all'ordine del giorno, la maggioranza della Camera dei Deputati si trova di fronte ad un difficile dilemma, o esprimersi contro una richiesta la cui fondatezza è già stata riconosciuta più volte e quindi dichiararsi in un certo modo come insolventi, oppure correre il rischio della lotta contro l'altra parte, contro coloro che sono contrari alla proposta. E questo dilemma è stato abitualmente il principio di una crisi parlamentare e la fine di una parte dei lavori. E si può ricordare, non sarà stato l'unico caso, non sarà stato l'unico motivo, ma addirittura il governo Körber si dimette pochissimo tempo dopo gli incidenti del 1904. Sarà stato solo uno dei motivi, senz'altro, ma dimostra però la importanza che la questione aveva anche a livello parlamentare. Die Fakultätsfrage ist zugleich die Grundfrage für das Verhältnis der Regierung zu den Italienern, einer Partei, die dank ihrer einheitlichen und überlegten Taktik trotz geringer numerischer Stärke parlamentarisch ins Gewicht fällt. Zumal bei den labilen Majoritätsverhältnissen des Abgeordnetenhauses und deren Stellungnahme insbesondere von Bedeutung ist für die Erhaltung des Gleichgewichtes zwischen den slawischen und nicht slawischen Elementen des Hauses. La questione universitaria è una delle questioni essenziali nel rapporto tra il governo e gli italiani. Un partito che ha una debole composizione parlamentare, i deputati italiani erano mi pare tra i 19 e i 20, e ha però un notevole peso che è dato dalla sua unità, dalla sua omogeneità, e quindi viene ad occupare un notevole ruolo sulla scena parlamentare, ed è una, spesso date gli estremamente labili rapporti di maggioranza-minoranza che ci sono nella Camera dei Deputati, finisce con l'essere un elemento essenziale, e le sue posizioni soprattutto sono importanti per il mantenimento del rapporto, dell'equilibrio tra deputati slavi e non slavi nella Camera dei Deputati. E questa era proprio una questione essenziale, dato che esisteva, anche se non fondata, una certa presunzione di fondo di opposizione contro il blocco slavo dei deputati tedesco-latini, quindi tedesco, italiani e rumeni, anche se poi di fatto, soprattutto dal 7, cioè dall'introduzione del suffragio universale, i rapporti parlamentari erano del tutto mutati. Vom Standpunkt der äußeren Politik stellt sich die in Rede stehende Frage als ein wichtiges Element der Pflege unserer Allianzen dar. Das österreichisch-italienische Bündnis wird im Königreich im Wesentlichen von den Regierungskreisen in weiteren Sinne getragen. Die öffentliche Meinung daselbst nähert sich gelegentlich dem Regierungsstandpunkt an, wenn die Gestaltung der äußeren Lage die Vorteile des Bündnisses für Italien gerade in besonders offensichtlicher Weise erkennen lässt, so während der libyschen Expedition und insbesondere jetzt anlässlich des Kooperierens in Albanien. Eigentlich populär aber ist das Bündnis dort schon deshalb nicht, weil es den nationalen Chauvinisten eine gewisse Beschränkung in ihren Bestrebungen nach restloser Verwirklichung des nationalen Einheitsgedankens und nach einer politischen Zusammenfassung aller Angehörigen des italienischen Volkes auferlegt. Qui veniamo al profilo della politica estera. La questione universitaria diventa un elemento molto importante nel mantenimento delle nostre alleanze. L'alleanza viene sostenuta in Italia soprattutto dai circoli governativi. La opinione pubblica si avvicina alle posizioni espresse dai circoli governativi solo in quei momenti in cui effettivamente l'alleanza sembra presentare dei vantaggi per l'Italia. È stato il caso della spedizione di Libria, è stato il caso adesso, siamo nel 14, della cooperazione fra Austria e Italia in Albania. D'altra parte, questo è l'elemento più importante, veramente popolare l'alleanza non è mai stata, e non lo è anche perché costringe gli sciovinisti italiani, gli irredentisti italiani ad una politica, cioè impedisce e restringe la libertà di movimento di questi nazionalisti italiani. Die von Annunzioschen Schlagworten getragene Agitation zur nationalen Erweiterung des Königreiches und zur politisch-wirtschaftlichen Expansion auf der Hemus-Halbinsel bietet der am Bundesverhältnis festhaltenden und auf seine Vertiefung bedachten italienischen Regierung mannigfache Schwierigkeiten. E qui si parla dell'agitazione che si vede imperniata soprattutto sugli slogan, sulle formule di D'Annunzio, italiana, che mira ad un'espansione politica, economica e anche ad una espansione territoriale. Tutto questo determina per la posizione governativa e per il rapporto triplicistica notevolissime difficoltà al governo italiano. Diese Agitation wird nun durch die Behauptung einer Zurücksetzung der Italiener in Österreich als deren, e questa è la frase che citavamo prima, als deren greifbarstes Symbol die Verweigerung der eigenen Hochschule erscheint, stets neue Nahrung zugeführt. Questa agitazione, l'agitazione irredentistica degli italiani, riceve nuovo alimento dall'affermazione di una Zurücksetzung, di un trattamento di secondo piano che viene fatto agli italiani in Austria. E il simbolo più evidente, più palpabile, visibile di questa Zurücksetzung sarebbe proprio il rifiuto da parte del governo austriaco di una propria scuola superiore per gli italiani. Denn in der Perspektive des Auslandes stellt sich der unbefriedigende Stand der Fakultätsfrage nicht als die Folge von Widerständen, die trotz aller Bemühungen der leitenden Kreise bisher nicht überwunden werden konnten, sondern einfach als die Vorenthaltung eines geschuldeten Gutes durch den österreichischen Staat als solchen dar. Cioè, l'opinione pubblica italiana, nella prospettiva italiana, lo Stato indubbiamente insoddisfacito a vedere questa università sorgere nella più importante città d'Austria, città italiana d'Austria, e cioè a Trieste. E questo per quanto riguarda l'agitazione generale, che dimostra come la questione universitaria abbia ormai travalicato il campo, l'area di un problema tirolese. E nel frattempo le cose a Innsbruck continuavano a muoversi, e ci sono momenti in cui sembra possibile un compromesso tra le richieste italiane e le richieste tedesche, ci sono dei momenti invece in cui la tensione è maggiore, e comunque si vede come questa soluzione dei corsi di Innsbruck fosse proprio una soluzione temporanea, una soluzione che non poteva essere procrastinata al di là di un certo tempo, cioè nella migliore delle ipotesi una soluzione transitoria, ma niente di più. E in certi momenti i professori tedeschi sembrano dell'idea di consentire lo sviluppo dei corsi italiani a Innsbruck sino al raggiungimento della facoltà completa, e quindi a quel punto il loro passaggio in un'altra città. In altri momenti invece sembrano volere bloccare le ulteriori possibilità di evoluzione di sviluppo della facoltà a Innsbruck. E comunque direi che predominano ormai in un'atmosfera cittadina abbastanza tesa, anche perché c'è tutta una serie ormai di dati esterni della città e non del mondo accademico che influisce sulla questione della facoltà. Cioè in questi anni si assiste ad una radicalizzazione nazionale in Tirolo. Ormai è sempre più netta la prevalenza dei cristiano-sociali sui vecchi cattolico-conservatori, e d'altra parte tra le forze liberali si sviluppa, soprattutto sotto la guida del vice borgomastro dottor Erl, la Volkspartei tirolese. Nel corso del 1902 ci sono anche le prime riunioni degli Altdeutschen, degli sostenitori dei fautori di Georg von Schoener, e mi sembra che addirittura nel corso del 1902-1903 Schoener stesso, il più arrabbiato forse dei nazionalisti austro-tedeschi, presenzia qualcuno di queste riunioni ad Innsbruck. Tutte queste forze nuove non credono più alla Landeseinheit, all'unità provinciale, in funzione mediatrice austro-tedesca italiana, ma vedono piuttosto la Landeseinheit, come dicevamo stamattina, in funzione egemonica. Quindi le tensioni nazionali dal mondo accademico penetrano sempre più nettamente nel mondo studentesco e nel mondo cittadino. E intanto sul suolo accademico c'è tutta una serie di elementi, di fatti, di episodi che dimostrano questa tensione nazionale che cresce, ai quali possiamo rapidamente accennare. Nell'ottobre del 1901 è finalmente pronto per la libera docenza il primo degli italiani che si sono valsi di quelle borse di preparazione ad una carriera scientifica di cui dicevamo stamattina. È un processual civilista, Francesco Menestrina, che poi ha avuto un notevole ruolo anche nel Regno d'Italia. È stato, anche qui devo rifarmi necessariamente agli esperti, ma mi dicono che è stato, insieme con Chiovenda, uno dei rinnovatori di quella scuola del processo civile che poi è arrivata con Calamandrei e Carnelutti alla riforma del 42, e in Italia Menestrina dopo il 18 non ha più fatto una carriera accademica, ma è arrivato a posizioni importantissime, mi pare è diventato alla fine vice avvocato generale dello Stato. È stato forse, a parte Schupfer, non solo lui, perché insomma anche Pacchioni ha fatto un'ottima carriera italiana, quindi comunque Menestrina ha avuto, ripetono, questa notevole posizione anche nel Regno d'Italia. E la libera docenza di Menestrina determina tutta una serie di problemi che, anche se sono piccoli, forse merita la pena di accennare per dimostrare come si trattasse di un equilibrio che in ogni momento minacciava di spezzarsi. Cioè Menestrina è il primo fra questi studiosi italiani che presenta per la libera docenza dei titoli a stampa solo in italiano, perché negli altri casi, cioè, si era trattato o di professori italiani come Pacchioni, già liberi docenti in Italia, oppure Sartori Montecroce, la cui attività scientifica era sostanzialmente un'attività scientifica di stampo tedesco. Quindi Menestrina presenta questi titoli scientifici in italiano e subito si pone la questione se ammetterli o no, cioè se era possibile la libera docenza in una facoltà tedesca di una persona con un titolo di stampa solo in italiano. E a questo punto si costruisce un compromesso complicatissimo, cioè si decide che Menestrina avrebbe potuto essere ammesso alla libera docenza, però la lezione di prova, il cosiddetto Probefortr, che poi la nostra lezione per la libera docenza, Menestrina avrebbe dovuto farla in tedesco, scusate, no, la discussione dei titoli avrebbe dovuto essere in tedesco per rispetto alla lingua d'ufficio tedesca dell'università. Però il Probefortr, siccome avrebbe dovuto insegnare in italiano e la sua libera docenza era una libera docenza per i corsi italiani, avrebbe dovuto invece essere tenuta in italiano. Quindi in questo modo si cercava di soddisfare tutti, scontentando in pratica tutti. E difatti Menestrina prende la libera docenza nel momento però in cui inizia il corso che come libero docente doveva tenere, la tensione esplode di nuovo, ci sono degli scontri violenti fra gli studenti, ma non solo tra gli studenti e non solo nella zona sul suolo universitario, ma anche nella città. E soprattutto c'è una serie di elementi molto importanti, cioè gli studenti italiani sono rinforzati da dei loro colleghi che sono arrivati da Graz e da Vienna. È il segno, cioè, di un'agitazione universitaria che si stava generalizzando. E poco dopo ci sono dei conflitti, degli scontri violenti tra studenti italiani ed austro-tedeschi a Vienna. Cioè, ormai siamo in un momento in cui gli scontri che avvengono in una sede non è che restino isolati a questa sede, ma che si estendono al resto delle università austriache, austro-tedesche, e Vienna era già sede costante, ormai lo diventerà sempre più nel corso di questo quindicennio, di scontri tra studenti austro-tedeschi e tra studenti slavi. Quindi c'è proprio una generalizzazione dell'agitazione universitaria, dell'agitazione studentesca nel mondo universitario. E soprattutto questo per quanto riguarda gli italiani, dopo questi episodi successivi alla docenza di Menestrina, si determina una maggiore saldatura tra l'azione di docenti, studenti e politici. Ci sono delle interpellanze parlamentari, soprattutto insomma c'è un'agitazione unitaria di tutte queste componenti, anche se c'è qualche sfumatura diversa sulla via immediata da seguire. Cioè i professori pensano ancora, i circoli accademici, all'utilità di conquiste parziali a Innsbruck, gli studenti e i loro rappresentanti, i deputati invece, sono più d'accordo, sono a questo punto preferiscono l'idea del trasferimento, cioè della sede in una facoltà italiana. Ci sono quindi delle differenze sugli obiettivi immediati, c'è però l'azione comune di tutte le componenti italiane a favore dell'università. E così in questi anni, tra la fine 1901, il 1902, il 1903, continuano queste agitazioni, continuano queste discussioni sulla sorte finale dei corsi italiani. D'altra parte però le pressioni tirolesi per un trasferimento, non possiamo purtroppo a questo punto dilungarci troppo, le pressioni tirolesi per il trasferimento diventano sempre maggiori. E si arriva all'aprile del 1903 ad un memorandum dello Statthalter tirolese Schwarzenau, nel quale, che casomai se ci sarà tempo potremmo vedere dopo, nel quale veniva consigliato il trasferimento addirittura al di fuori del Tirolo di una facoltà italiana. E poco tempo dopo si arriva ad un provvedimento molto negativo, proprio perché fatto senza pensare al significato della misura. Cioè sulla base di questo memorando di Schwarzenau, il governo prendeva l'impegno di allontanare, entro un termine, non mi ricordo se di 2 o 3 semestri, i corsi italiani dal territorio tirolese. Cioè cedeva completamente a questa pressione tedesca. E è una misura dilatoria di cui oltretutto non ci si poneva assolutamente le modalità di attuazione, cioè si prometteva qualche cosa senza sapere come effettivamente questa promessa avrebbe potuto essere mantenuta, ed è una promessa di cui effettivamente a breve scadenza il governo avrebbe dovuto pentirsi. È stata una cosa probabilmente fatta a cuor leggero sotto queste pressioni tirolesi, senza preoccuparsi delle sue conseguenze. E Schwarzenau stesso nel corso, proprio mi pare in questo suo rapporto, diceva che il governo doveva guardarsi soprattutto da una cosa, da non dare l'impressione che la realizzazione della facoltà italiana fosse una cosa attuata, concepita, non tanto per fare piacere agli italiani, ma per fare piacere ai tedeschi, cioè per allontanare l'università italiana dal territorio tedesco. E di fatto una misura di questo genere sembrava però invece proprio dava effettivamente questa impressione, cioè che il governo non pensasse tanto a attuare o a concepire o attuare una facoltà italiana, ma pensasse ad allontanare questo pomo della discordia da Innsbruck e quindi a fare contento a soddisfare il gruppo etnico tedesco. E a questo punto si arriva, dato che il governo ha fatto questa promessa di allontanamento dei corsi, si arriva ad un'effettiva ricerca da parte del governo di quale potesse essere la sede adatta per la facoltà italiana. Si arriva cioè ad una fase in cui il problema della facoltà italiana sembra diventare soprattutto una Standortsfrage, cioè una questione del luogo, di dove mettere la sede di questa facoltà. E l'autorità ministeriale interpella le autorità più direttamente interessate e chiede dei suggerimenti, cioè si rivolge al luogotenente di Trieste, che a questo punto è ancora il conte Goes, e si rivolge al luogotenente per il Tirolo, che è sempre il barone von Schwarzenau. E si assiste a questo punto ad un così quasi ad un gioco di ping pong, per usare un'espressione che è entrata anche nel gergo politico non da poco tempo, tra le due autorità luogotenenziali, il luogotenente di Trieste e quello di Innsbruck. Cioè ciascuno sostiene, proprio per evitare di prendersi una gatta da pelare in casa, che la sede migliore per la facoltà è una città che si trova nella giurisdizione di competenza dell'altro luogotenente. Cioè il conte Goes sostiene che assolutamente è da escludere una qualunque sede adriatica, sia Trieste, sia Gorizia, sia Gradisca, sia Capodistria, che arriva a un certo momento, e che invece l'università starebbe benissimo in Trentino ed eventualmente anche in Tirolo. Nel Tirolo tedesco, mentre da parte di Schwarz non si dice esattamente la cosa opposta, cioè non ci sono possibilità di una sistemazione fruttuosa e pacifica della facoltà italiana né nel Tirolo tedesco né in Trentino, e che invece il litorale adriatico va bene. E vediamo adesso, dopo questa così cosa molto sommaria, quali sono effettivamente la sostanza degli argomenti addotti, e direi che forse sono più, perlomeno sotto il profilo dell'interesse austriaco, Gesamtstaatlich, come dicevamo stamattina, gli argomenti che usa Goes sono più persuasivi che non quelli che usa Schwarz, no? Cioè Goes ritiene, e qui possiamo andare rapidamente perché abbiamo un po' anticipato la problematica stamattina, che il litorale adriatico come zona mistilingue è estremamente pericoloso come sede di una facoltà monolingue, cioè che c'era tutta una serie di problemi che sorgevano, anzitutto la contemporanea richiesta sloveno-croata per una propria sede universitaria. Se questo non si fosse realizzato, c'era la forte probabilità che studenti sloveni e croati frequentanti l'università italiana avrebbero dato luogo a scontri costanti con i loro colleghi italiani, quindi anche qui un po' una praghesizzazione di Trieste. E soprattutto Goes sostiene che un'università italiana a Trieste avrebbe favorito la forza, il gruppo nazionale meno leale, irredentista, più anti-austriaco, e avrebbe invece danneggiato le forze leali austroslave o austro-tedesche. Quindi il governo avrebbe finito col fare un piacere ai suoi avversari e con fare invece una cosa poco grata ai gruppi nazionali che lo sostenevano. E poi naturalmente ci sono le altre considerazioni, cioè il pericolo di crescita dell'irredentismo, i pericoli militari, i pericoli di porre il grande emporio commerciale dello Stato austriaco in una difficile situazione nazionale, e forse questo è un altro argomento che l'autorità austriaca, anche se non magari Goes direttamente, in questo rapporto prende in considerazione, è anche quello del clima culturale ideologico di Trieste, cioè una sede universitaria posta in una città sostanzialmente laica, anticlericale, con una forte presenza dell'elemento ebraico, con una forte presenza dell'elemento massonico, era qualche cosa che l'autorità austriaca tutto sommato preferiva evitare. E difatti non sarà poi un caso che nella stampa austro-tedesca per lungo tempo le correnti clericali, la Reichspost soprattutto, che poi a un certo punto però si convertirà alla tesi di Trieste, cercheranno di escludere Trieste come sede della facoltà italiana. Ed invece chi sosterrà le ragioni di Trieste sarà la Neue Freie Presse, che proprio anche su questa questione dalla Reichspost viene costantemente bollata con l'espressione di Judenpresse, di stampa ebraica. E quindi, ripeto, non forse, non direttamente in questo rapporto, ma però anche questa questione del particolare clima politico-culturale di Trieste è un elemento che gioca un certo rilievo. Da parte di Schwarzenau la replica invece quella anzitutto della necessità di osservare la promessa che già aveva fatto il governo, cioè l'impegno ad allontanare i corsi dal Tirolo. In secondo luogo si dice che ci sarebbe stata poi l'opposizione dell'elemento tedesco che avrebbe temuto una crescita dell'elemento italiano in Tirolo. C'era anche qui, secondo Schwarzenau, il pericolo dell'irredentismo, probabilmente sopravvalutato sia a Trento che a Rovereto. C'era la vicinanza eccessiva al confine meridionale della monarchia e difatti non è un caso, e con questo avverrà soprattutto dopo, che fortissime pressioni per evitare la facoltà italiana verranno fatte da parte del comandante del corpo d'armata tirolese, un membro della casa imperiale, l'arciduca Eugenio, e quindi senz'altro anche gli ambienti militari temevano questa facoltà troppo vicino al confine meridionale. E poi c'è una considerazione globale di politica nazionale che vuole proprio rovesciare quanto ha detto Goes. Cioè Goes ha detto: un'università nazionale è bene che sorga in una zona nazionalmente omogenea come il Trentino. Invece Schwarzenau sostiene che un'università nazionale è bene che sorga dove c'è un altro gruppo nazionale che possa contenere un'eccessiva crescita dell'altro. E quindi la facoltà italiana darebbe un eccessivo sviluppo alla nazionalità italiana in Tirolo, perché non c'è nessuna forza che possa arginare, contrastare l'elemento italiano, mentre nel litorale adriatico una crescita eccessiva dell'elemento italiano sarebbe stata controbilanciata, evitata dalla presenza di un altro gruppo nazionale. E tutto sommato quindi il governo si trova di fronte a due alternative del tutto opposte e che soprattutto davano troppo la sensazione di essere ciascuno dei luogotenenti interpellati parlava un po' come Cicero pro domo sua. No, nell'una e nell'altra tesi ci sono anche degli elementi obiettivi, degli elementi molto pertinenti, ma d'altra parte c'è troppo anche la sensazione che si cercasse di evitare a qualunque costo un crescere della tensione nella propria zona di amministrazione. Quindi il governo non può effettivamente cogliere molte indicazioni da queste voci così contrastanti. E comunque nel complesso le argomentazioni sostenute dal luogotenente di Trieste vengono ritenute più persuasive rispetto a quelle portate avanti dal luogotenente di Innsbruck, e si arriva quindi all'idea di una facoltà italiana in terra italiana, quindi non più a Innsbruck, però nella parte italiana del Tirolo, e a questo punto sta maturando un'alternativa che verrà poco dopo, di una verrà proposta poco dopo con un progetto legislativo di una facoltà italiana autonoma con sede a Rovereto. Sui motivi che spingono il governo a questa scelta abbiamo una lettera del presidente del Consiglio austriaco, di von Körber, al ministro dell'istruzione, che è del febbraio del 1904, che ci dà qualche dato sulle ragioni che hanno determinato la scelta di che verranno a determinare tra poco la scelta di Rovereto. Trieste viene scartata, dice Körber, non per ragioni di polizia o per ragioni di ordine pubblico o perché la facoltà Trieste avrebbe reso impossibile il contenimento dell'irredentismo, ma invece esclusivamente per ragioni legate al problema dei rapporti nazionali a Trieste e nel litorale, cioè proprio per ragioni legate al problema del rapporto dell'equilibrio italo-slavo nel litorale adriatico. E quindi scartata Trieste, occorreva limitarsi all'eventualità di una sede posta nel Trentino. Si diceva che Trento era troppo grande, troppo esposta al nazionalismo, e che solo Rovereto, che Körber dice era impermeabile alla nazionale Leidenschaft, alla passione nazionale, poteva essere considerata come possibile sede di una facoltà italiana. Ci sono delle reazioni, ma comunque alla fine si arriva ad una proposta di un disegno, ad un disegno di legge che poneva a Rovereto, che allontanava da Innsbruck questi corsi italiani e che contemplava, cioè viene presentata al Parlamento, questa proposta che mirava all'istituzione di una facoltà italiana autonoma con sede a Rovereto. E arriviamo quindi a quello che è stato il primo preciso, organico progetto per una soluzione globale, se non del problema dell'insegnamento universitario italiano nel suo complesso, perlomeno di quello della facoltà di legge. E quindi anche in questo senso Rovereto è un momento importante, il progetto su Rovereto è un momento importante della storia della questione. D'altra parte però si vede immediatamente che dalle reazioni che le reazioni erano molto più negative che non positive, cioè sostanzialmente sono contrari gli stessi italiani che potevano concepire Innsbruck come stadio provvisorio e che invece non accettano Rovereto come stadio definitivo, perché pensavano che questa soluzione definitiva a Rovereto avrebbe allontanato nel tempo le prospettive di Trieste. Ma direi che non è tanto questa reazione negativa italiana l'elemento essenziale, ma piuttosto le reazioni negative degli altri gruppi nazionali, o perché direttamente interessati o perché si ritenevano direttamente interessati, cioè i tedeschi che vedono la soluzione Rovereto negativa in una prospettiva tirolese, oppure interessati nel senso che non vogliono, come dicevamo stamattina, il soddisfacimento della richiesta di un solo gruppo nazionale, cioè gli slavi. Tutti i gruppi nazionali slavi presentano immediatamente anche le proprie rivendicazioni nazionali. E direi che a questo punto però la opposizione più importante a cui vale la pena di dedicare due minuti è quella dei gruppi austro-tedeschi, soprattutto tirolesi. Anzitutto si rimproverava al governo la rottura della promessa di allontanare i corsi dal Tirolo, ma poi soprattutto c'è qualche cosa di più, cioè questa proposta per una facoltà italiana si inserisce in un quadro complessivo di una politica governativa che gli austro-tedeschi ritenevano andasse contro gli interessi tedeschi in Austria. Cioè non possiamo considerare la questione della facoltà italiana in Tirolo, anche se Tirolo italiano, separata da altri aspetti di politica nazionale, soprattutto di politica scolastica, seguiti in quel momento dall'autorità governativa. Ci sono anzitutto, siamo più o meno nello stesso periodo, anzitutto forse si può ricordare che non era passato molto tempo dalla questione del ginnasio sloveno a Cilli, una questione che aveva avuto un importantissimo ruolo nell'opposizione austro-tedesca contro i governi. Poi proprio in questo momento ci sono degli altri provvedimenti, i cosiddetti Agramererlass, i decreti su Zagabria, che stabilivano il riconoscimento di studi che i croati d'Austria facevano nell'Università di Zagabria. Anche qui, per quanto possa sembrare paradossale, Austria e Ungheria, per quanto riguardava le legislazioni scolastiche, erano completamente separate e quindi prima di questi decreti sul riconoscimento degli studi a Zagabria, la laurea a Zagabria aveva lo stesso valore o aveva lo stesso assoluto non valore che poteva avere una laurea in un'università tedesca dell'impero germanico o in un'università italiana. Questo per spiegare come, nonostante possa sembrare paradossale, si tratti proprio del riconoscimento di studi in un'università straniera. Poi erano state introdotte delle classi parallele slave in centri che i tedeschi ritenevano esclusivamente tedeschi, cioè classi parallele ceche a Troppau, classi parallele polacche a Teschen, due centri nella zona linguistica mista slesiana, ceco-tedesca e in un caso addirittura polacco-ceco-tedesca. Teschen. Contemporaneamente mi pare c'è la nomina di un Landsmann Minister per la Boemia di un cieco, cioè c'è effettivamente la sensazione di una slavizzazione dell'Austria, di una Zurücksetzung dell'elemento tedesco in Austria, e soprattutto, ed anche questo è un elemento importante, negli ambienti tedesco-nazionali c'è una sensazione di frattura tra il Deutschtum e lo Österreichertum, cioè sembra che la coscienza statale austriaca diverga sempre più nettamente dalla coscienza nazionale tedesca. E questo è anche un elemento di estrema importanza nello spiegare queste posizioni che ci paiono quasi troppo esageratamente ed aspramente risentite in relazione all'importanza oggettiva della questione dei tedeschi sulla, degli austro-tedeschi sul problema della facoltà italiana. E già queste posizioni alle quali abbiamo accennato, italiane, tedesche, slave, dimostrano che il presupposto essenziale per la realizzazione della facoltà di Rovereto è ormai a questo punto venuto meno, cioè una maggioranza parlamentare che approvi la facoltà, l'istituzione della facoltà di Rovereto non è assolutamente disponibile. E quindi il governo cerca un'altra via, cioè pensa di attuare una misura provvisoria che per il momento allentasse la tensione in vista di una soluzione definitiva futura. Misura provvisoria che immediatamente, sin da quando si affaccia questa idea del provvisorio, trova molte riserve, anche perché, come dirà uno degli organi di stampa che adesso non mi ricordo, in Austria non esisteva nulla di più stabile, di più duraturo del provvisorio, proprio perché era talmente difficile in quella situazione trovare politicamente, parlamentariamente delle soluzioni vitali, che il provvisorio finiva col rimanere eterno. Questo siamo molto eredi, siamo molto eredi, se non in altre cose magari più positive. Sì, sì, sì. E poco tempo dopo l'organo socialista, la Arbeiter Zeitung, definirà queste misure provvisorie der alte Fluch der österreichischen Politik, la vecchia maledizione della politica austriaca. E quindi vediamo adesso concretamente quali sono le idee sul contenuto possibile di questo provvedimento provvisorio. E l'idea prima era quella naturalmente più ovvia, cioè siccome dei corsi paralleli italiani a Innsbruck esistevano, autonomizzare questi corsi paralleli italiani dalla facoltà tedesca e creare provvisoriamente una facoltà italiana separata con sede a Innsbruck. Si riteneva che questo fosse possibile non solo attraverso il voto parlamentare, quindi attraverso una legge, ma anche attraverso decreto, perché si fa una sottile distinzione: Rovereto sarebbe stata una facoltà nuova, questa facoltà autonoma e parallela di Innsbruck, una facoltà che si riallacciava delle istituzioni già esistenti e che soprattutto rimaneva, per quanto separata, in un corpo universitario già esistente, e quindi poteva essere anche attivata attraverso decreto. D'altra parte però l'opposizione è molto netta, è netta negli ambienti tirolesi, con l'eccezione degli ambienti vecchio conservatori vicini alle Neue Tiroler Stimmen, ma la maggior parte dei gruppi tedeschi liberali, tedeschi nazionali, tirolesi, cristiano sociali sono contrari alla soluzione. Si può citare un'espressione dell'organo tedesco nazionale di Innsbruck, il Tiroler Tagblatt, che parlando di questa soluzione dice: Heißet doch den Feind in die Tirolische Festung mitten hineinsetzen, cioè si trattava proprio di mettere il nemico nel mezzo del Tirolo. E quindi nel complesso si vede come anche questa soluzione incontri numerosissime opposizioni. E quindi c'è un'effettiva difficoltà proprio di arrivare ad un qualunque tipo di soluzione. E difatti si vede che quanto più si fa strada questa idea sul provisorium che ponesse la sede della facoltà, sia pure separata temporaneamente, a Innsbruck, l'agitazione nella città cresce, e c'è qui anche tutta una serie di rapporti luogotenenziali che ci dimostrano, che ci provano questo continuo crescere della tensione a Innsbruck, e come sempre, o come spesso avviene, gli episodi più violenti avvengono per le questioni apparentemente più semplici. E difatti nel luglio del 1904 questi dissensi raggiungono il loro culmine per una questione veramente semplicissima. Cioè, deve fare un esame un fratello più giovane di Francesco Menestrina. Menestrina deve astenersi dalla commissione perché non può esaminare suo fratello. Al suo posto, probabilmente proprio perché non era disponibile nessun altro, viene nominato un professore tedesco. Da parte italiana la questione viene, che era probabilmente esclusivamente pratica, viene considerata come una lesione dei loro diritti. Cioè, un docente tedesco che era posto ad esaminare uno studente italiano. E c'è un momento di gravissima crisi. C'era anche un voto, no? No, quello dopo, nel novembre, sì, no, no, a questo punto no. E ad ogni modo, no, dico, questi sono tutti segni di una difficoltà obiettiva di trovare una soluzione alla questione. Forse dopo varrà la pena di leggere qualcuno degli atti più interessanti che testimoniano questa crescita della tensione. E finalmente, però, nonostante tutto, siccome altre soluzioni non si trovano, nel settembre del 1904 viene presentato il decreto per l'istituzione di questa facoltà autonoma a Wilton, un sobborgo di Innsbruck, che doveva essere autonoma, separata sia legalmente, perlomeno in parte, che organicamente e che localmente. Si parla di una organische und räumliche Trennung, quindi una separazione organica e di locali. Rimaneva però, proprio per salvare la finzione giuridica della unità della facoltà, con il corpo universitario di Innsbruck un unico elemento, cioè che il titolo conclusivo, il titolo di dottore, veniva conferito sotto gli auspici del rettore dell'università di Innsbruck. Quindi era proprio un rapporto estremamente labile, ma per il resto, per esempio, la facoltà italiana non sarebbe stata rappresentata nel senato accademico, non sarebbe stata rappresentata negli organi collegiali della facoltà, quindi il più separata possibile. E si credeva di poter fare accettare questa soluzione di una università italiana in terra tedesca ai tedeschi in base ad un triplice ordine di argomenti, cioè anzitutto questa separazione, in secondo luogo la provvisorietà ed in terzo luogo la fine di tutte le agevolazioni di cui gli studenti italiani avevano goduto fino a quel momento a Innsbruck. E qui bisognerebbe fare una parentesi su qualche cosa che forse non è un grande problema, ma su cui dovevamo dire qualche cosa stamattina, cioè la facoltà giuridica non era l'unica forma di i corsi giuridici non erano l'unica forma di agevolazione di cui gli italiani disponevano a Innsbruck. C'erano delle facilitazioni di carattere burocratico, cioè la facoltà di fare domande in italiano, di presentare domande in italiano, documenti italiani e così via, e c'erano delle facilitazioni didattiche che riguardavano altre facoltà, cioè la ripetizione di determinati corsi di medicina e di facoltà scientifiche, mi pare soprattutto chimica, in italiano. Viene stabilito invece, proprio per ridurre l'università di Innsbruck a un'università puramente tedesca e quindi per fare accettare la pillola della facoltà autonoma Innsbruck, che tutte queste facilitazioni didattico e burocratiche dovessero cessare. Però non è, questo non è sufficiente per rendere possibile questa convivenza a Innsbruck. E difatti il decreto è del settembre. Nel corso del settembre e dell'ottobre tutti più o meno le persone dotate di un minimo di ragione capiscono che la soluzione non era assolutamente vitale e che addirittura esisteva un pericolo molto forte di nuovi conflitti, di scontri armati, di violenze nel momento dell'apertura della nuova facoltà. Difatti la tensione cresce continuamente E vorrei ricordare, qui vale la pena davvero la citazione diretta, due documenti, uno italiano ed uno tedesco, che ci dimostrano come il radicalismo nazionale avesse prevalso ormai completamente da una parte e dall'altra. Una lettera diretta da Scipio Siegele agli studenti italiani, pubblicata il 20 ottobre 1904 sul Tiroler Tagblatt. Siegele denuncia l'estremismo tedesco, ma lo denuncia in termini che dimostrano come il suo radicalismo, perlomeno su quella questione, avesse poco da invidiare a quello tedesco. Non è più una lotta, ma una caccia che le bestie preparano agli uomini. Noi siamo la civiltà e il diritto, essi sono il medioevo e la violenza, essi hanno il numero, cioè il presente, noi abbiamo l'ideale, cioè il futuro. E adesso invece vorrei vedere un documento della parte opposta, e cioè un documento di parte tedesca. Scusate un attimo, ecco, allora se mi consentite leggere, poi vediamo. Appellung der deutschen Mitbürger, das unglaubliche ist Tatsache geworden. Die Regierung hat die Gründung einer italienischen Universität in der deutschen Stadt Innsbruck beschlossen. Und leider ist ein Deutscher, der in nationaler Pflichtvergessenheit sein Haus zu diesem Zwecke der Regierung überlassen hat. Cioè l'incredibile è divenuto un fatto concreto, è divenuta realtà. Il governo ha fondato una università italiana a Innsbruck e soprattutto si denuncia il comportamento del tedesco che ha ceduto il palazzo in cui la facoltà italiana dovrebbe aver sede. Am Fuße des Bergisels, der rumvollen Kampfesstätte, wo der deutsche Tiroler nur auf sich selbst gestellt, sich wieder den welchen erobern zur Wehr setze, an der Stelle von wo aus noch wiederholt, opfermutige deutsche Tiroler in hellen Scharen nach dem Süden zogen zum Schutz des Landes gegen freche welche Gier, hier errichtet man unseren Erbfeinden eine starke Trutzburg im Herzen von Tirol. Bayern, i Bayern sono stati combattuti, sì. I francesi, no? Sì, sì, è vero? Sì. I Bayern. Wer nennt sich ehrlich einen Deutschen, dem nicht das Blut zum Kochen beginnt vor Scham, vor Erbitterung, vor Zorn über solche Schmacht? Stände der Feind als Sieger vor unserer Stadt, er könnte uns nicht mehr demütigen. Das ist der Dank Österreichs für alle blutigen Opfer, die gebracht wurden für Gott, Kaiser und Vaterland. Cioè proprio nel luogo più sacro del Tirolo dovrebbe sorgere questa facoltà italiana. Helfen wir uns selbst, da niemand sonst uns hilft. Noch ist welcher Besitz in Innsbruck nicht so groß als das welche Geschäfte, welche Familien, welche Angestellten nicht angewiesen wären auf deutsche Kundschaft, auf deutsche Wohnungsgeber, auf deutsches Brot. E quindi un invito proprio ad un boicottaggio dell'elemento italiano a Innsbruck finché non è così forte. E poi continua una richiesta di questo tipo, che non vale la pena di leggere, alla città, alla popolazione, alla cittadinanza, di boicottare in tutti i sensi i cittadini, gli studenti, i professori italiani, in modo da non dare loro assolutamente la possibilità di stabilirsi a Innsbruck. E vale forse invece la pena di citare la frase finale: Tue jeder seine Pflicht als wahrer Deutscher, auf dass unsere Nachkommen nicht dereinst den Vorwurf machen, die von den Vätern mit ihrem Blute verteidigte deutsche Erde an unsere Feinde verraten zu haben. Cioè faccia ciascuno il suo dovere come vero tedesco, in modo che i propri discendenti non possano fare il rimprovero di avere ceduto, di avere tradito, di avere dato al nemico la terra tedesca difesa dai padri con il loro sangue. Questo, cioè, è il, sì, questo è il segno più evidente che la soluzione Innsbruck non era Assolutamente, qui non ce l'ho, ma dopo la cerco. Che la soluzione Innsbruck non era assolutamente una soluzione vitale, una soluzione valida. Nonostante questo si va avanti e si decide l'inizio dei corsi italiani nel novembre del 1904. E nel novembre del... nonostante ci fosse poi ancora un'altra ragione che faceva pensare che effettivamente il giorno dell'inizio dei corsi della facoltà italiana sarebbe stato un giorno tragico, cioè l'agitazione a questa agitazione, che però direi ha forse più un carattere difensivo tedesco, si oppone un'agitazione che ha un carattere più propriamente aggressivo italiano, cioè si conia lo slogan, la formula del tutti a Innsbruck, si invitano gli studenti italiani delle altre università austriache, di Graz e di Vienna, a confluire su Innsbruck nel giorno dell'inaugurazione per trasformarla in una vera e propria grande manifestazione nazionale. A Innsbruck vanno i deputati italiani. E poi c'è anche un ultimo elemento che peggiora proprio la situazione, proprio all'ultimo momento, e cioè si diffonde una notizia che è falsa ma che esaspera gli studenti italiani, che i corsi di letteratura italiana che faceva presso la facoltà filosofica un docente famoso, Arturo Farinelli, erano stati interrotti. E quindi questo sembra una ulteriore manovra, un'ulteriore mossa contro gli italiani. E così, anticipato da uno stillicidio di incidenti negli ultimi giorni di ottobre, si arriva nei primi giorni di novembre, il 4 di novembre, mi pare, all'inaugurazione della facoltà. Lo credo il 4. E nel... vabbè, vale forse la pena di dire qualche cosa, cioè nel corso della giornata non ci sono incidenti, le cose sembrano quasi passate lisce, e poi invece nella sera, alla sera c'è un grande conflitto che rappresenta il momento più tragico della questione universitaria italiana e in pratica la fine di questa fase della questione universitaria, cioè gli studenti italiani con i loro professori, con i deputati, sono riuniti in una locanda zum Weißen Kreuz, e ad un certo punto la locanda viene praticamente assediata dagli studenti studenti e non solo studenti tedeschi. Dall'interno, dove forse la sensazione di un accerchiamento ci si sente più in pericolo di quanto realmente non si sia, incominciano a partire dei colpi di pistola verso l'esterno. L'assedio tedesco si fa allora più deciso, interviene la forza pubblica che interviene con le baionette, uccide un tirolese tedesco di probabile origine sul tirolese ladina forse, e oltretutto si dice, non so quanto sia vero, che tra questi Kaiserjäger intervenuti molti fossero trentini e che quindi tutti avessero caricato con particolare bestialità e soddisfazione, non so, poi i giornali affermano che addirittura colui, ma mi pare a questo punto troppo difficile, che ha ucciso Pezzei sia andato con la baionetta dicendo porco te coppo, qualche cosa del genere, questo mi pare strano. Beh, insomma, comunque c'è la esplosione della... c'è questo conflitto violento, ci sono dei morti, la facoltà viene distrutta proprio materialmente, e quindi in pratica ancora prima di nascere questa soluzione della facoltà di Wilton è finita. Da parte tedesca poi si insisterà per molto tempo sulla necessità di chiudere anche formalmente la facoltà di Wilton. Le parole più sagge su questo sono forse state dette dalla Neue Freie Presse, la quale pochi giorni dopo scriveva che non si vedeva quale fosse la necessità di una misura legale di chiusura di una facoltà il cui edificio era distrutto e i cui studenti erano in carcere. non si vedeva proprio a questo punto più che cosa ci fosse da chiudere. E quindi direi questo è il momento in cui effettivamente finisce una fase della questione dell'università italiana, cioè si chiude la fase tirolese, si chiude la fase dei passi graduali, si è visto che questa politica dei passi graduali non aveva, perlomeno nella fase conclusiva, non aveva portato dei risultati vitali, e da questo momento la prospettiva della questione universitaria cambia. E di fatto con il 1904 subisce anche un notevole passo indietro l'insieme delle istituzioni, delle agevolazioni comunque universitarie di cui gli italiani godono in Austria. Quindi è una vera e propria perdita di Besitzstand, una perdita di posizioni italiane in Austria, cioè i corsi paralleli sono finiti, ripetizioni di corsi di facoltà non giuridica a Innsbruck sono finite, le agevolazioni didattiche e burocratiche anche, la cattedra di Farinelli non può più essere rioccupata da questo titolare, rimane congelata per circa 2 anni, poi nel 6 Farinelli passa a Torino, inizia la sua carriera universitaria italiana e la cattedra non viene più ricoperta. Mussafia è malato, poi muore, la cattedra viennese verrà occupata da filologi romanzi austro-tedeschi, Mayer, Lückel e Richter. Solo a Graz continuano ad esserci esami in italiano. Quindi in sostanza i fatti del novembre 1904 non hanno avvicinato la soluzione definitiva delle Universitätsfrage ed hanno anzi rappresentato una notevole ed in fondo permanente perdita delle istituzioni culturali italiane in Austria, in quanto non si raggiungerà più il punto a cui si era giunti nel novembre del 1904. E a questo punto comincerebbe la seconda parte della storia della questione della facoltà, della lotta per la facoltà, che dura proprio dal 1905 al 1914. Io non so, forse sarebbe bene fermarsi qui e casomai dire qualche cosa sull'altra parte, solo rispondendo a delle domande che eventualmente potessero esserci. Ma intanto facciamo appunto una sospensione di discussione su questo punto. Sì, ecco, quindi, poi casomai se c'è tempo... Stanchezza, perché proprio stiamo abusando in modo... No, dico, poi casomai se c'è un po' di tempo si può vedere... Cioè forse si può dire ancora qualche cosa. Una piccola domanda, non sì. Viene mai in ballo la Brixen o del Bode? No, assolutamente. Mai. Come mai? Proprio non viene mai nemmeno l'ipotesi. Beh, direi non c'era molto senso di mettere la facoltà italiana in un centro tedesco che non era sede universitaria. No, come si pensava a Rovereto? Certo, ma Rovereto era però vicino italiano, quindi... e suscitato le stesse riserve di Innsbruck senza avere la giustificazione di una sede in cui... No, perché si pensa alle cose più assurde, cioè a un certo punto si pensa addirittura a Praga, per esempio. Certo. Quando si rimanda a un pensiero studente, che era una proposta nazionalista, non è che per caso fosse un po' offeso, io ho usato, no? Si aveva chiesto di insegnare a questo. Sì. Mi pare che nel 1898-99, sì, se non sì, sbaglio, sì. Non ho mai trovato le motivazioni per le quali essere usato, probabilmente perché il positivista clericale. Sì. No, lì ci sono. No, quello non credo. No, non direi, perché anzitutto erano passati molti anni, abbastanza anni, e poi il posto di Siegel era stato occupato da docenti italiani, quindi, perché quella sì, no, è una questione, ci sono i fascicoli sulle chiamate, ci sono dei fascicoli personali su quelle che sono le due persone chiamate, cioè prima Carnevali e poi Lanza, ed in effetti Siegel è appoggiato dai docenti italiani, ma l'opposizione dei docenti tedeschi, e per ragioni nazionali, cioè di eccessivo irredentismo, e poi per ragioni di scuola, cioè si preferisce chiamare un penalista classico piuttosto di un criminologo considerato vicino lombrosiano e così via. E quindi Siegel si presenta due volte. La prima volta i suoi rivali sono Carnevali e Lanza, e il posto viene dato a Carnevali. Poi questo si può così ricordare, perché è una curiosità. No, no, questo perché è uno così dei documenti umani più interessanti. Questo povero Carnevali, che è un siciliano nato a Trapani e laureato a Messina, che arriva improvvisamente nell'inverno di Innsbruck e che dopo due mesi scrive una disperata lettera di dimissioni, dicendo proprio che il clima nordico non gli si compiaceva assolutamente, e ritorna nella sua Sicilia. Però l'elemento importante è che la prima volta la terna era stata fatta da Carnevali, Siegel in seconda posizione, Lanza. Quando c'è la ripresentazione dei candidati, ci sono Siegel e Lanza, quindi Siegel che aveva avuto più voti la volta precedente, e però la chiamata viene fatta Lanza. E quindi, no, ma senz'altro sono ragioni politiche, sono ragioni di scuola, però non credo che a questo punto se ne ricordasse ancora. Oltretutto, perché poi nel 1908 Siegel dà una valutazione abbastanza obiettiva, abbastanza serena della questione universitaria, dopo il lui stesso scrive, come lo può dire, pagine nazionaliste, dicendo che contro una questione soltanto interna tedesca non era affatto una questione che riguardasse la diplomazia italiana, tantomeno gli studenti italiani, che con Titoni aveva giocato l'Italia con un dilatato credito, nel senso che non poteva ottenere quello che non poteva ottenere. Direi che nel suo articolo è molto più equilibrato insomma su questa questione. Questo è il 1908, sì, sì, però. Sì. Questo però è anche il momento in cui i contrasti studenteschi sono vivi, quindi è possibile che si sia fatto. Infatti anche, cioè io l'ho citato come... Ah, sì, sono Innsbruck, vero, i 5 a Vienna, ma però non sono sotto... Può essere forse, e lo sapranno loro, che ci siano anche a Innsbruck. Comunque sono fascicoli che non riguardano Siegel direttamente, cioè sono i fascicoli personali di Carnevali e di Lanza. Avendo la storia della loro chiamata, hanno anche si può ricostruire anche quello che riguarda Siegel. Sì. Però immagino che forse ci saranno anche a Innsbruck i fascicoli sui professori. No, che forse gli atti sulle chiamate dei professori che io ho consultato a Vienna, forse ci sono anche a Innsbruck. No, sono a Vienna. Sono a Vienna. Sono a Vienna. Se potrei sapere il giornale. Il giornale. Dell'appello di Sci. Ah no, no, l'appello non è dal giornale. Dove è uscito? Ma direi proprio di no, non credo, almeno non mi pare. Un poco su questo, no, sulla questione della scelta della facoltà, della scelta del luogo. Ma nella questione universitaria io mi sarei permesso poi dopo di aggiungere a titolo così di completamento che forse la minore versione dei conservativi con i clerico nazionali trentini, perché è vero che il dottor i cattolici conservativi hanno avevano perso molti voti nelle elezioni del 1900 e però era costituita anche la Lega la Bauernbund, no? La Lega dei contadini, e allora cercavano un po' quei cattolici conservativi tirolesi di arrivare ad avere un accordo e un appoggio dai clerico nazionali, così erano chiamati il Conci, nel 4 non c'era ancora, no? E anche i Gentili è un clerico conservatore. Gentili war nicht nationalkonservativ. Die Konservativen in Trentino hatten sich nämlich gespalten. Und zwar, die Konservativen haben in Trentino so eine ähnliche Funktion eingenommen, was den Deutschen in Notevoll nicht gelungen ist, für die christlich-soziale Notevoll. Sie haben also eine Reihe von Institutionen gegründet, sie haben so etwas Ähnliches aufgebaut wie den Tiroler Bauernbund, nicht? Und vor allem Katrain hat eine Verbindung herstellen wollen mit den Konservativen, aber das war nicht die nationalistische Gruppe der Konservativen unter Conci, sondern es war eine Abspaltung. Sì, ma qua con il termine di clerico nazionali si indicava tutto il gruppo dei deputati cattolici. Le differenziazioni erano interne, i Gentili era più a destra, i Conci più moderato, ma nel complesso erano chiamati clerico nazionali, ero tutti i deputati del Partito Cattolico Trentino. E allora i conservativi tirolesi, il Catra e Lindy, aveva iniziato un tentativo di avvicinamento per difendersi dall'avanzata e dalla grande diffusione del movimento cristiano sociale. E forse questo più benevolo sguardo dei conservativi nei confronti della questione universitaria di Wittgenstein poteva anche dipendere da questo. Era soltanto Vorrei aggiungere qualche cosa alla risposta della signora, cioè i clericali influenzano secondo me più l'opposizione a Trieste, dopo vedremo un momento. No, ritornando invece un momento alla sua osservazione, non so quanto sia da sottoscrivere, perché la posizione dei vecchio conservatori, dei cattolico conservatori tirolesi, favorevole alla facoltà italiana Innsbruck, è antecedente a queste ragioni tattiche che possono spiegare il 1903-1904. Cioè, io vorrei, penserei di ricollegarla proprio a quello che si diceva stamattina, cioè della visione pan-austriaco, conservatrice del problema dell'unità provinciale e quindi proprio del diritto della nazione, della seconda nazione provinciale, della nazione minoritaria provinciale, proprio nel quadro di questa volontà di conservare l'unità provinciale, ad avere la propria sede universitaria nella capitale provinciale, anche perché non so quanto, cioè mi sembra che nel 1903-1904 le posizioni dei trentini, perlomeno esternamente, siano piuttosto unitarie, non c'è chi si pone su posizioni più moderate, cioè di accettazione della facoltà di Wittgenstein, e chi invece vuole la facoltà italiana e possibilmente la facoltà Trieste. Mi pare che tutti. Io vedevo un esempio, e dove però nell'estate invece sì, comunali sì. Dove non c'è la maggioranza liberale, cioè non rispondono nemmeno, è un'iniziativa proprio da certi comuni del Trentino. Ecco, invece poi nel 1905 è una manifestazione unitaria, e adesso io qui contro per Trieste. Contro Treviso, per Trieste in protesta, sì. In protesta poi per i disordini del 3 dell'Università Libera. Sì. Ma anche limitatamente, e forse i clericali trentini non sarebbero stati. No, probabilmente non sarebbero stati alieni. In opposizione alla collocazione dell'università a Roverino. No, di fatto, però, no, questo certo, però si polemizza proprio con sì, i clericali sì, per questo motivo. Però questo non viene molto fuori. C'è una preoccupazione però di non infrangere un fronte unitario. Ci sono delle, difatti ci sono anche, non so, delle indicazioni anche di di responsabili austriaci che sì, in camera caritatis gli italiani potevano ammettere delle cose, ma che però poi il pubblico in genere, il loro atteggiamento era unitario. Difatti si vede anche negli anni dopo, nel 9, nel 10, ci sono dei frequenti incontri tra Binert con Bugatto, Conci e Gentili. Però non mi pare che, tranne certi momenti, che esternamente queste cose vengano molto fuori, cioè c'è la preoccupazione di scontentare l'opinione pubblica. Per Rovereto sì, sa, per Rovereto la frattura è stata evidente, sì, proprio. Da una parte liberali e socialisti che erano contrari apertamente alla collocazione dell'università a Rovereto e dall'altra parte invece clericali che se non esplicitamente o programmaticamente, però poi finirono per rimproverare socialisti e liberali di non aver accettato la facoltà a Rovereto e con ciò di aver nullificato insomma la possibilità di una facoltà. Ma poi quella è una questione un po' complessa, perché investa le posizioni personali, infatti ci sono degli attacchi a Malfatti di fare una sonda al politico. Sì, soprattutto Battisti fa certo, una punta Malfatti. Ecco, poi dopo... No, in fondo, sono stato al Chiedo, a Capodistria per esempio, cioè... Sono a titolo aggiuntivo, certo, sì. Ecco, no, poi vorrei un attimo, no, riprendendo la sua osservazione, a me sembra che se pressioni clericali, ma non so se tanto di elementi della gerarchia ecclesiastica, quanto piuttosto dell'opinione pubblica, della stampa, delle tendenze politiche, soprattutto austro-tedesche, ci siano state per le ragioni che dicevamo prima contro Trieste, cioè proprio questo timore della cultura laica, anticlericale, ebraicizzata e un po' massonica di Trieste, che suscita dei timori nelle correnti cattoliche, ed è per questo che per esempio la Reichspost e le Neue Tiroler Stimmen si oppongono così tanto all'idea della facoltà a Trieste, perché per il resto, per l'atteggiamento della gerarchia, anche perché io non me ne sono occupato direttamente, conosco un solo documento che può essere abbastanza importante, del gennaio del 1909, cioè di molti anni dopo. Il governo Binert fa una specie di sondaggio tra tra personalità, chiamiamole notabili, lealiste di Trieste, per vedere che cosa pensavano queste persone sulla possibilità di istituire una facoltà italiana a Trieste. Gli interpellati sono così figure piuttosto varie, c'è Gino Dompieri che è il capo di quella piccolissima frazione cristiano-sociale antisemita triestina, un transfuga dei nazionalliberali, c'è qualche funzionario burocrate in pensione come Franz Marenzi e c'è anche il vescovo di Trieste, Franz Nagel, che poi è diventato arcivescovo di Vienna pochi anni dopo, mi pare già prima del 15, no, verso il 12, no, il 13, non so. E Nagel, e quindi è il massimo esponente della gerarchia ecclesiastica triestina, uno dei massimi di tutto il litorale adriatico, ritiene che non ci siano delle ragioni di fondo, degli elementi così pesanti contro Trieste da far valere l'argomento della impossibilità di istituire la facoltà italiana a Trieste. Cioè in sostanza ritiene che con alcune cautele, cioè cercare di controllare l'elemento irredentista, si poteva benissimo porre a Trieste una facoltà italiana. E questo mi pare un elemento abbastanza interessante per smentire così che delle pressioni troppo forti contro la facoltà italiana e contro Trieste siano state fatte. Ripeto, secondo me sono soprattutto gli elementi cristiano-sociali austriaci, le correnti di opinione cristiano-sociali austriache, che fino a un certo punto, però mi pare prima, fin verso il 1907-8, sono contro Trieste, perché poi nel corso del dibattiti parlamentari del 1909-1910 anche i cristiano-sociali sono per Trieste. Questo è, ripeto, è l'unico documento che io abbia trovato. Sì. Al documento che si è letto stamattina, ma si accennava al fatto che in Italia questo problema dell'università negata venisse poi strumentalizzato per dire che allora c'era una pressione nei confronti della parte italiana. E per cosa si sa delle reazioni, cioè di come l'Italia era guardata questa questione dell'università? Ah beh, qui credo ci vorrebbe uno studio particolare, no, perché effettivamente è stata una questione che ha avuto dei grandi echi, dei grandi riflessi. Anche perché poi una parte di questi professori italiani che hanno poi in realtà professori dell'università italiana, questo siciliano che è andato in. Sì, beh, questo credo che abbia è tornato così spaventato. No, dico, ma senz'altro, no, ma le reazioni. Ma certo, voglio dire, ma c'era gente scambiata. Sì, beh, ma guardi che anzitutto numericamente, l'abbiamo detto noi, i professori sono stati pochissimi, perché prima del 94, tranne Schupfer, non c'è stato in pratica nessuno. Poi dunque in questi anni, dal 94 al 99, c'è Pacchioni, che poi si insegnerà a Torino e a Milano, Farinelli, che insegnerà a Torino, Lanze Galante, di cui ho cercato di seguire le tracce, ma non è che abbia trovato molto, Lorenzoni, che invece diventa professore in Italia, a Macerata e a Firenze, Menestrina, che non segue in Italia carriera universitaria, quindi sono piuttosto pochi in questo senso. Però la questione in Italia è stata vissuta in maniera drammatica, c'è tutta una generazione. Non so, adesso io le cito nomi di storici, forse perché mi sono più familiare, non so se lei parla con il professor Ghisalberti, le racconta come prima del 1915 andava a fare le manifestazioni per l'Università Italiana a Trieste, così tanti. Ma i sono sì, e poi la cosa più importante, io questa non l'ho studiata direttamente, che anche la stampa socialista, per esempio, italiana si interessa molto della questione, quindi è stata una questione che ha avuto effettivamente un peso notevolissimo. Poi c'erano i contatti tra studenti austro-italiani e studenti italiani, i viaggi per esempio delle università popolari, degli studenti italiani a Trieste, gli studenti triestini che andavano a Ravenna a accendere la lampada, il monumento di Dante, insomma c'era tutta, è una questione che effettivamente ha un peso notevolissimo ed è proprio, penso, l'elemento che più contribuisce costantemente a tenere viva l'agitazione nel mondo irredentistico italiano, l'agitazione irredentistica nel mondo italiano. E quindi è un problema che credo proprio quasi meriterebbe uno studio, se non a sé come problema isolato, ma perlomeno studiare organicamente nella stampa, nella pubblicistica, come la stampa, l'opinione pubblica della penisola ha considerato il problema degli italiani in Austria. Noi abbiamo in fondo solo due inchieste giornalistiche pubblicate, e più tarde del 13 e 14, quella di Gaida e quella di Barzini. Invece proprio sarebbe importante vedere, anche con riferimento ai decreti Hohenlohe, tutta la storia di come veniva valutata la posizione degli austro-italiani dall'opinione pubblica italiana e soprattutto questa questione universitaria. A livello ministeriale poi ha un peso molto forte, perché ci sono delle notevolissime pressioni del Ministero degli Esteri, in genere insomma del governo italiano, sul Ministero degli Esteri austro-ungarico, perché a sua volta premesse sul governo austriaco per una soluzione della questione. E addirittura in certi momenti, per esempio certi momenti per Tittone sembra quasi una questione di vita e di morte, cioè supplica che gli si dia soddisfazione su questo problema, perché sennò la politica triplicista non può essere portata avanti dato la massiccia ostilità che incontra nell'opinione pubblica. Il discorso di Carabin aveva addirittura quasi promesso l'università italiana di Tittone, addirittura promessa di fronte al pubblico italiano dopo lo scorso. Ma sì, perché poi c'è una questione di una, cioè da parte italiana si è ritenuto che a un certo punto Arendt l'avesse promesso delle cose che invece non aveva promesso, quindi si determina così tutta una serie di... Poi le grane che suscitavano, mi ricordo nel quadro, ci sono i comizi d'Italia, proprio come contraccolto dei fatti di Vente, no? E ho visto proprio qui ma lo spinti in mettere, il problema è che di questi comizi, tutti erano giuristi, ti permetta, che creano delle grosse grane a giuristi, e quando vengono i telegrammi di solidarietà e di Innsbruck, ho trovato le notarelle, i giuristi l'hanno fatto passare, insomma, effettivamente creano dei grossi problemi da tutti i rapporti internazionali. No, e poi ci sono gli studenti austro-italiani che studiano in Italia, no? Pensi solo alla Firenze negli anni 1910-1915, Slata per i fratelli Stuparic. Ma l'ambiente dell'ambiente accademico italiano, cioè si sa qualche cosa, c'è una certa radiografia. Ambiente accademico intendendo professori? Sì, intendendo professori dell'università. Il successo per l'università libera? Sì, quello sì. Dei grossissimi professori accademici italiani avevano diritto proprio per tenere. Sì, perché nel 1903 c'è a un certo punto l'idea di un'università libera italiana che avrebbe dovuto essenzialmente consistere in una serie di conferenze alla quale aderiscono. Sì, beh, aderiscono sì, le Gubernatis del Lungo, sì, moltissime persone. No, no, certo, però è un'iniziativa bloccata perché già la prima conferenza deve essere quella di De Gubernatis e De Gubernatis viene bloccato. Quindi è senz'altro anche questa una cosa che ha avuto peso. Poi ci sono dei professori austro-italiani che insegnano nelle università italiane addirittura da molto tempo, come Giacomo Veneziano, quindi anche questo teneva vivo. No, senz'altro è una questione che ha un peso. Adesso reazioni precise nel mondo accademico non saprei dirgliene, ma già l'adesione a questa università libera di Innsbruck è un segno che la questione aveva un grande peso. Sie haben gesagt, dass die Universitäten jetzt besonders von dem österreichischen Statthalter in Triest abgelehnt worden ist, wegen der zu erwartenden Schwierigkeiten mit den Slowenen. Jetzt möchte ich eine Frage stellen, die eigentlich aus dem Rahmen Ihres Vortrags etwas herausfällt und auf die, ich weiß nicht, jemand von den anwesenden Herren eine Antwort geben. Ach, bitte laut. Nach 1920, glaube ich, oder 1919 schon, ist in Triest eine Universität gegründet worden. Waren dann die Schwierigkeiten, die vor 1914 befürchtet worden waren, tatsächlich gegeben? In dem Verhältnis mit den Slowenen hat es da Schwierigkeiten gegeben, hat es Zusammenstöße zwischen den Studenten gegeben? Oder nein, Sie meinen nach dem Krieg? Nach dem Krieg. Oder waren die Befürchtungen österreichischerseits unbegründet eigentlich? Ja gut, das ist zu glauben. Also noch vor der faschistischen Kulturpolitik mit dem starken Zurückdrängen des slowenischen Elements. Ja gut, das ist, glaube ich, schwer zu sagen, weil die Befürchtungen waren wahrscheinlich begründet im österreichischen Rahmen, aber unbegründet im italienischen Staat. Und zwar erstens die Universität Triest wurde, glaube ich, 1929 gegründet. Und zwar erst 10 Jahre nach italienischer Macht der Grafen in Venezia Giulia und 7 Jahre nach dem Anfang der faschistischen Zeit. Und das war wahrscheinlich schon zu spät. Und bis 1929 hatte ich, glaube ich, in Triest nur eine Hochschule für Handels- und Ökonomie bestanden. Ja, ja, und ja, eine Handelsakademie. Ja, das war, glaube ich, sozusagen der Nachfolge der alten Institut, des alten Instituto Revoltelle in Triest. Ja, und natürlich 1929 war das slowenische und kroatische Element zu deprimiert und es hat, so weiß keine... ja, natürlich, das auch. Der ganzen, also des ganzen Balkans stand ja gegenüber jetzt, nicht? Ja. Aber ich würde sagen, dass im österreichischen Rahmen hätten sich sicher zwischen, zwischen Italiener und Slowenen gegeben. Und zum Beispiel, wenn ich mich, wenn ich genau, mich genau erinnere, ich glaube, 1913 hat haben im Istituto Revoltella Zusammenstöße zwischen italienischen und slowenischen Studenten gegeben. Und das wäre wahrscheinlich auch der ähnliche Fall in einem in einer größeren Universität in Trieste gewesen. Und ich kann vielleicht noch was dazu sagen. Und zwar, man kann, ich glaube, vermuten, dass die Slowenen vielleicht eine italienische oder sicher eine zweisprachige Universität in Trieste viel lieber als eine slowenische Universität in Laibach begrüßen hätten. Und zwar eine Universität in einem geschlossenen slowenischen Gebiet hätte von einem nationalen Standpunkt keinen besonderen Vorteil für die Slowenen gehabt. Es wäre nur, wie kann man sagen, die Verteidigung des Besitzstandes gewesen. In Trieste hätte man vielleicht eine Möglichkeit gehabt, sozusagen einen Angriff gegen den italienischen Besitzstand zu machen. Ja, natürlich. Ja, ja, das stimmt, natürlich. Ja, aber sie hätten natürlich nichts anderes machen können. Es wäre ja auch nur für sich das ganze Problem. Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, aber das natürlich war sozusagen eine Petition di principio, eine, so wie für die Italiener in Trieste. Aber glauben Sie, dass Sie das gar nicht ernst gemeint haben? Nein, nein, Sie haben vielleicht das auch ernst gemeint. Aber doch würde ich sagen, dass Sie vorgezogen hätten, auch sozusagen eine Festung im Küstenland zu haben. Vielleicht alles beide, und zwar die slowenische Fakultät in Laibach, eine rein slowenische Fakultät und eine gemischte Fakultät oder Universität in Trieste. Und natürlich, wahrscheinlich Trieste hat auch eine größere Anziehungskraft als Laibach gehabt. Und zwar, es war eine größere Stadt, es war das Zentrum des Handels und des ökonomischen Lebens im Küstenland. Und das kann auch vielleicht man, muss man auch in Betracht nehmen. Professore, vuole che aggiunga una curiosità, vero? Come sono stati visti a distanza di anni questi fatti di Innsbruck del 1904 e i primi di ottobre del 1922 c'è stata l'aggressione di squadre fasciste su Bolzano provenienti in gran parte da fuori della regione. Ero, mi pare c'era addirittura Stalace, Giunta, Giuliani,